Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. No, è che sembra uno scherzo, capito? Ah, che scherzo? No, che dico, cioè, vabbè, no, adesso... Che è successo? Accantoniamo le partite che non c'entrano molto, però voglio dire, l'Inter. L'Inter, che sta perdendo anche oggi. Strama. Ma che faccia aveva Stramaccioni? L'hanno inquadrato pochi istanti fa. Poi è pallido. Sì, hai capito? Vabbè. Adesso va bene. Non, va dico, bene tutto. Non dico farsi le lampade, però è pallido. È triste, allora, e pallido. Io capisco, dalle stelle alle stalle, però andare così velocemente verso le stelle per poi crollare miseramente immediatamente. Attenzione, perché c'è una punizione per il Genoa che sta perdendo contro la Sampdoria a Genoa. E quindi ecco, c'è un po' di tensione. Adesso, però, Luca, non posso essere io quello teso. Lo so, no? Ecco, fuori, nulla di fatto, nulla di importante. Sampdoria 1, Genoa 0, siamo al 31esimo. Diamo anche gli altri risultati? Ma proviamo. Diamo anche gli altri risultati. Cagliari, come abbiamo detto, vince 1-0 contro l'Inter. Poi c'è il Chievo col Catania 0-0. L'Udinese 3-0 a Parma. E la Roma vince 2-1 in quel di Torino. Ecco, 2-1, 2 gol. 2-1 vuol dire che la Roma ha segnato 2 gol e che il Torino ne ha segnato 1. Volevo spiegare, essere didascalico al massimo. Ti ringrazio per questa spiegazione, ti vedo teso, per questo riesci a dire quella serie di stupidate pazzesche, no? Possiamo dire che Parma-Bologna oggi a mezzogiorno e mezza è finita 1-1. Sì. Diciamo, la partita doveva finire 1-0. Poi il portiere del Palermo, Sorrentino, ci ha messo del suo, ha fatto una delle più storiche vaccate roba. Ascoltatrici, ascoltatori, se non l'avete già visto, lo vedrete questa sera o su internet o alla televisione. C'è stato un retropassaggio. Lui si è avventato sulla palla e si è accorto proprio quando stava per toccare la palla che in realtà non poteva toccare la palla con le mani. Esatto, ha fatto quella che si chiama in gergo tecnico, si è avventato in presa bassa. Sdraiato, stava prendendo la palla, poi ha detto: oddio, non posso prenderla con le mani. E l'ha lasciata passare. L'ha lasciata passare in mezzo alle gambe. Dietro c'era un altro giocatore. C'era quindi... Gabbiadini del Bologna che ha infilato. Ecco, che ha infilato, l'ha messa dentro. Vabbè, comunque diciamo anche che la Roma è stata trionfando direttamente sul Torino, però diciamo anche dove è Luca Cancellara. Luca, aspetta. Pronto, Luca? Eccoci. Voi siete lì al fresco del vostro studio, con la Seregno sotto il sole cocente. Cioè, sono adesso, qui scusa, con l'unico vero eroe sportivo di questa domenica. Scusa, fermati un attimo, Luca. Aggiornamento in questo momento: 2-0 per il Cagliari. Esatto, ha segnato il Cagliari in questo momento il 2-0, cross dalla destra. Poi è arrivato, mi sembra ancora Piniglia. Potrebbe essere ancora lui, sì. Piniglia che ha fatto un'azione di forza e ha messo in dentro il gol. 2-0 del Cagliari a Trieste contro l'Inter. Ecco, torniamo da Luca Cancellara, che si lamenta perché fa caldo. Hai capito? Ho capito bene. Fino a ieri si lamentava perché faceva freddo. No, si lamentava adesso perché pioveva. Adesso si lamenta perché fa caldo. Luca Cancellara, dove sei? Dove sei collocato? Sicuramente in questa giornata non sono io quello che mi lamento più di tutti del caldo. Sono qui, dicevo, con l'eroe di giornata, l'eroe sportivo italiano e forse anche europeo, originario di Bari, ma abita a Bolzano, 31 anni. Francesco Milella, che voi direte, chi è? Aspetta. Appena percorso in 7 ore e 16 minuti circa la 100 chilometri di Seregno. In moto o in bicicletta? No, che in moto, in bicicletta. Sto tastando i suoi polpacci a piedi. Francesco, sei ancora vivo, sì. Sì, certo, sono vivissimo. E condividere con voi questa gioia... immensa. Sì, e mancava poi la chiusa. Però volevo chiedere, scusa, Luca, cioè 100 chilometri di Seregno, giusto? Ho capito bene? Gara internazionale, maratona internazionale. Sì, allora, tanto per cominciare, è come quando il Giro d'Italia parte dall'Olanda, cioè non so come dire, perché a Seregno non ci sono 100 chilometri di strade, dai, su. Non diciamo infatti, per superare il problema chilometrico, hanno organizzato un anello di 20 chilometri. che è stato ripetuto 5 volte. Bravo, bravo, ti vedo attento anche su questo. Beh, cioè, abbiamo mandato lo scientifico mica per attenzione, niente. Attenzione, che golasso in questo momento! 35esimo! Che golasso! Ha fatto 1-1. E qui il Genoa ha segnato 1-1, 1-1 contro la Sampdoria. Un golasso veramente incredibile. Matusalem. Da quasi metà campo. Scusa Luca? No, beh, cioè adesso Francesco si sta arrabbiando, ve lo devo dire. Perché non è... Genoa Sampdoria, al cospetto delle sue gesta eroiche di oggi, è nulla. Però Luca, adesso dobbiamo fare un intro, cioè in questo momento dobbiamo parlare di calcio in questo momento qua. No, una cosa volevo chiedere, una domanda fondamentale a Francesco Milella, ricordiamo vincitore della 100 km di Seregno. Veloce. Questa malattia che tu hai di fare tanti chilometri, ti è venuta da ieri o la maturi da tempo? No, è stata un'escalation, perché essendo mezza maratoneta mi sono buttato sulle ultramaratone, perché a Bolzano il caldo non arriva quasi mai, allora mi sono cimentato più sui lunghi che non sulla velocità. Beh. Ma la tua famiglia barese lo sa che sei scappata a Bolzano per fare questi chilometri? Ti scrivono ancora, li senti a Natale, a Pasqua? Sì, ci sentiamo sempre con i miei familiari, essendo un militare, perché lavoro lì. Va bene. Per servizi. Ultima domanda, quanti bisciti hai? Quanti? Da controllare. Comunque volevo ringraziare la mia società, la Bioambra. Certo, è perfetto. Scusa Luca, però ti dobbiamo tagliare, anche perché sta succedendo qualsiasi cosa in questo momento nel campionato. Allora, capisco la 100 km di Seregno, esatto. Ma noi ci torneremo tra l'altro su questa 100 km di Seregno più tardi. Nel frattempo ha sfiorato di nuovo il gol la Roma, momento. Un contropiede sulla destra e il cross, il contropiede sulla sinistra, poi c'è stato un cross, però il gol è stato mancato di poco. Si è schiantato contro il palo? No, deve aver picchiato la mano contro chi? Contro il palo? Contro l'attaccante della Roma, quindi vabbè, credo che fosse Florenzi che aveva attaccato. Vabbè, comunque torniamo al golasso, perché non l'ho più rivisto, perché mi ha distratto questa 100 km di Seregno. Stiamo parlando di Lombardia, esatto, stiamo parlando di Lombardia. Alto milanese, penso, no? Sì, Brianza più medio o meno. Milanese, non ho capito. Più o meno Brianza. Intanto il Genoa ci crede. Ecco, possiamo dire che il gol di Matusalem... Di bene. No, il Genoa ci crede, figura se non ci crede. No, la cosa interessante è che il gol di Matusalem è un cross sbagliato, perché si è visto chiaramente dalla tre quarti, ha tentato un cross, ha guardato verso il centro dell'area. È il Doriano che c'è in te che parla. No, guarda, è scienza questa. Non so se è il Samp o il Doriano che parla. Dobbiamo dare anche un'altra informazione per quanto riguarda i tifosi blucerchiati all'ascolto, ma anche quelli genoani. Il Sampdoria sta giocando in 10, perché è stato espulso un minuto prima del gol del Genoa Costa. Il terzino per doppia ammonizione, quindi Sampdoria in 10, Genoa 1, Sampdoria 1, mentre resta 3-0 il risultato dell'Udinese sul Parma, 0-0 Chievo-Catania, doppietta di Piniglia del Cagliari contro l'Inter, quindi 2-0 del Cagliari sull'Inter, mentre la Roma vince grazie ai gol di Osvaldo e Lamela 2-1 sul Torino, che ha segnato con Rolando Bianchi. Questi risultati fino a questo momento. Beh, andiamo all'estero, perché intanto per parlare di questo campionato che tanta e tanta gioia ci dà, un po' meno in questo, adesso c'è tanta gioia a Genoa, no, diciamolo, nella sponda sampdoriana, però c'è tanta gioia. Però per analizzare quello che sta accadendo, anche questo 2-0 del Cagliari sull'Inter, noi ci appoggiamo pesantemente a un commissario tecnico di una nazionale, la nazionale è l'Albania. Il commissario tecnico è Gianni De Biasi, pronto? Eccoci qua, mister. Buongiorno a tutti. Mister, come sta? Sta bene? Sì, direi molto bene. Senta, mister, quando l'hanno chiamata a fare l'allenatore dell'Albania non ci credevano che facesse questi risultati, dica la verità. Ha detto, facciamo un giro di qualificazione tranquillo. Sì, facile. Dovevamo giocare per il quarto posto, per il momento siamo al secondo, speriamo che continui così. Perché diciamo, nel girone dell'Albania di qualificazione ai mondiali del Brasile 2014 ci sono Svizzera e Islanda, oltre all'Albania, Norvegia, Cipro e Slovenia, e l'Albania in questo momento è seconda in classifica a 2 punti dalla Svizzera, che è in testa, e voi dovete andare a giocare la Svizzera deve venire nell'ostico campo, dov'è che giocate? A Tirana. L'ostico campo di Tirana, che come sappiamo è impossibile per tutti, quindi però torniamo a noi, a parte la sofferenza di Luca Gattuso, che è noto sampdoriano e che quindi soffre questo 1-1, tra l'altro ha visto il gol? Sì, l'ho visto. Allora Matusa non è stato il mio giocatore, adopera solo il sinistro, ha fatto gol di destro, quindi per qualche campo voleva metterla in mezzo. Bravo. E diciamolo, non è che si è allenato molto ultimamente, no? Per fare un gol del genere, quindi gol sbagliato, insomma, cioè passaggio sbagliato, gol conseguito. Esatto, voleva crossare, diciamo. Sbagliato, gol conseguito. Ecco, questo ha guardato in mezzo, voleva crossare, gli è venuto male il cross. Purtroppo abbiamo Luca, non è che possiamo stare tutto il giorno Genoa Sampdoria, perché tu, cioè, voglio dire, stai soffrendo, stai sudando. Anche no, era un aspetto tecnico. Fai leggermente schifo, per certi versi. Voglio dire, invece, parliamo di questa Inter. Di questa Inter che sta perdendo 2-0 e per fortuna che Stramaccione ci credeva ancora, io credo che dopo stasera ci creda un po' meno, sinceramente. Ecco, battuta? Constatazione. Giustamente lui deve cercare di tirare l'acqua al proprio mulino, deve cercare di motivare i propri giocatori, però... dopo questa batosta stasera l'Inter ma conviene avere una attenzione, intanto in questo momento c'è rissa in campo Genoa e Sampdoria, in questo momento c'è rissa in campo De Silvestri con Vargas, due persone molto tranquille nella Vargas, vita, se non sbaglio è già la seconda volta tra l'altro all'interno di un, come dire, non dico rissone ma comunque di agitazione, anche prima se l'è presa un po' troppo, tranquilli ragazzi, c'è Portanova che tenta di far da pacere e siamo tranquilli allora a questo punto con Munari tra l'altro, un'altra persona tranquilla, beh adesso arriva Gastaldello. Castello gli sta dicendo: chi sei? Ripetimi il tuo nome, dai, porta, sei tu, dai, ripetilo. Insomma, ecco, vabbè, niente di grave, si è buttato, sì. Diciamo, niente di grave, soltanto, ecco. Ma lì l'allenatore, quando si trova in queste situazioni, che fa? Cioè, cerca di richiamare la calma, ma non è così facile incidere. Sì, già non lo sentono quando oggi, giocano. Esatto, oggi c'è una marea di gente, vedo bellissimo questo derby... bellissimo di Genova, direi che è una cornice adeguata, direi che in Italia non è che non si vede tanta gente allo stadio, Genova fa un po' così, è una piacevole sorpresa. No, capisco che è difficile dire anche Torino alla Juventus, però vabbè, comunque è dura insomma in questo passaggio. No, parliamo però appunto di questa Inter, cioè Stramaccioni adesso ormai rischia secondo lei? Da quale punto di vista? Cioè nel senso che... confermato? Non lo so, è difficile da dire, è chiaro che bisognerà cercare di capire anche quali sono i programmi dell'Inter e cosa vorrà fare nella prossima stagione, poi dipende molto anche dagli investimenti che vorrà fare Moratti, perché a Stramaccioni può andare bene tutte le varie situazioni, a qualche altro magari o qualche altro allenatore di grido magari non gli sta bene un programma ridimensionato. Senta, ma a questo punto all'Inter conviene non fare l'Europa League, perché dal punto di vista, abbiamo visto già in passato che la Champions è una cosa, ma fare l'Europa League per una squadra che punta al vertice è più che altro una rottura dei ritmi, la possibilità di non allenarsi. Allora io da questo punto di vista non sono d'accordo, allora, lo dico perché oggi abbiamo rose di 30-32 giocatori, una cosa allucinante. Io credo che se uno ha due manifestazioni importanti riesce a motivare tutto il gruppo, è chiaro che poi se arrivi a questa stagione qui e sei già fuori, come è successo purtroppo alle nostre squadre, l'unica su tutte è stata la Lazio, che secondo me è stata penalizzata da un arbitraggio assurdo a Istanbul, per il resto direi che è una buona competizione, perché quando arrivi in fondo e arrivi a vincerla o ti giochi carica finale, credo che sia sicuramente importante, uno per il nostro calcio e due anche per il ranking UEFA. Sì, il problema è che diventa interessante soltanto dai quarti di finale in poi, non di più. Sì, è vero, però è anche vero che uno che ha una rosa, come dicevo prima, nutrita, ha la possibilità di dare l'opportunità di giocare a molti giocatori che magari ha rischiato molto adesso la sua Samp. Sì. Guardi, c'ho qua la tachicardia io. Sì, fa finta di parlare, io ho detto stai zitto. Guardi da un'altra parte. Esatto. Sì, guarda, facciamo una cosa, interrompiamo un attimo, mandiamo il traffico e ci risentiamo tra poco. Intanto lui beve un po' d'acqua, Ok. Dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, ma... Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? Gianni Biasi, commissario tecnico dell'Albania, qui con noi per seguire gli ultimi minuti e poi qualche tempo supplementare anche per il campionato che è un po' così, è adesso, cioè è dura, cioè anche per un addetto ai lavori. No, sì, cioè, no, cioè, no. Non è, io direi che la Juve non ha ovviamente problemi, sì, prima, e lì è bello da vedere questa sera come si concluderà Milan-Napoli, perché se Milan vince si candida in maniera importante per un secondo posto, sì. La Fiorentina sta facendo veramente molto bene, la Lazio non so se ha ancora energie, se ha ancora giocatori a disposizione, la Roma la sto seguendo adesso contro il Torino, sta facendo una partita di grande qualità. Io credo che la Roma sia destinata a crescere nel panorama italiano, perché ha giocatori di qualità, giovani, che può dare continuità a questo progetto. Ecco, sulla Fiorentina, ieri le dichiarazioni post partita erano un pochettino contrastanti, c'era qualche giocatore che sostanzialmente diceva che non avevano speranze di andare in Champions, anche Montella è stato un po' sulle sue, cioè, se lei fosse l'allenatore di una squadra in questa situazione di classifica, ci crederebbe ancora la possibilità di arrivare in Champions, cioè il terzo posto? Ma perché no, mancano ancora parecchie partite, io direi che mancano, mi sembra, 6 partite alla fine del campionato, e 15 c'è la possibilità, però il Milan secondo me ha un passo straordinario, è la squadra che sta andando più forte di tutti, se evidenziamo l'inizio di stagione quando il Milan era nella seconda parte della classifica, vi rendete conto del passo che ha tenuto, certo, per portarsi a ridosso. Quindi basta poco, vorrei dire, il prossimo anno sarà interessante, perché basta qualche aggiunta in più qua e là, no, per avere un Milan ipercompetitivo, tra l'altro. Sì, sono convinto anch'io, specialmente davanti il Milan è fortissimo, perché con Balotelli e Sarawi, Niang, o Boateng, tutti questi giocatori qua sono giocatori giovani e che possono durare negli anni, vuol dire per i prossimi 4, 5, 6 anni il Milan è a posto, sì. Se non litigano tra di loro. Per migliorare un po' a livello di centrocampo, io credo che possa, e anche dietro secondo me, può sicuramente dire la sua. C'è arrivato un sms al 349-238-6666, 349-238-6666, non è che c'è arrivato i due, c'è arrivato uno sempre, io dico due volte il numero per farlo scrivere in questo caso, e chiede se c'è un giocatore albanese che consiglierebbe per la nostra Serie A. Siccome faccio l'allenatore nazionale, non è che posso fare da sponsor per i miei giocatori, dico soltanto che se ne è più di qualcuno che potrebbe giocare nella nostra Serie A. Facciamo uno sport. Giovani di... Guardatevi la partita, insomma. Faccio io, voglio dire, molto semplice come messaggio. Guardatevi le partite, non rompete, insomma. Cioè, lo rompete, lo aggiungo io, non lo mette lei. Era perché se dico un nome, poi ovviamente domani... Certo, su di altri... I giornali albanesi che... appunto. Ogni volta che parlo in Italia, domani è scritto sui giornali. Appunto, facciamo notizia sui giornali albanesi, dica un nome. Disse un nome su di alto un nitrito, cioè voglio dire, in questo caso sarebbe Pascoli. Esatto, no, voglio dire, in questo caso. Ah, però, vabbè. Altri livelli. Sì, vabbè. Senta, De Biasi, cosa direbbe un portiere come Sorrentino rientrato negli spogliatoi al 90esimo? Dopo quello che direi qualche pacca sulla spalla, perché quello è un grande portiere, non so cosa gli sia capitato. Per un attimo, secondo me, è andato come... convinto che fosse un tiro in porta, sembrava in pensione, secondo me, voglio dire. Sì, sicuramente. Sembrava un pensionato, secondo me. Lì sul filo del rasoio è lì che sta cercando di lottare con le unghie e con i denti per restare in Serie A, e chiaramente la pressione si può sentire. Ecco, io adesso dobbiamo toccare questo argomento, perché prima o poi bisogna toccarlo, lo togliamo, attenzione, intanto un tiro da fuori, no? del Torino. Però ha limato un po' il palo. Sì, esatto, quarantesimo, siamo al cinquantesimo. Però è finita. Probabilmente è finita, sicuramente è finita. Si danno la mano l'arbitro. Perché Cerci sta facendo una pennica, si è buttato per terra, ha detto, io non mi muovo più di qua. Siamo 2-1 per la Roma in quel di Torino, è il risultato finale, mentre manca un minuto esatto, Orsato indica verso centro campo, c'è una rimessa laterale per la Sampdoria, un minuto alla fine a Genova-Sampdoria 1-1. Ecco, una domanda che sorge spontanea, in questo caso conflitto di interessi, visto che sono bianconero, e la domanda è, il Bayer ha praticato un altro sport l'altra sera, e quindi è un'altra cosa, ma cioè, in questo caso che cosa basta soltanto mettere un paio di giocatori per raggiungere il Bayer, per andare in semifinale in Champions? No, non credo, ma perché sento sempre parlare di questo top player. player. Se c'è il top player davanti non è che cambi di molto la situazione, credo, perché la Juve davanti ha già meglio dica Messi numero questo consistente di attaccanti. Io credo che sia un discorso proprio di esperienza internazionale. Uno è pensare che il Bayern è partito con qualche anno d'anticipo nel suo progetto. La Juve sta facendo, secondo me, grandissime cose, tempo al tempo, perché non è che si può fare dalla sera alla mattina delle cose però, straordinarie. La Juve già in Italia sta facendo cose veramente molto incredibili, importanti. certo, ma non si capisce mai se in Italia fa cose incredibili per la pochezza delle altre squadre oppure perché è molto forte lei, insomma, in questo caso. In Europa diciamo che in Italia è molto forte, ecco. Però poi quando vai fuori ti confronti, ma vediamo anche le altre squadre nostre che sono lì al vertice e poi escono in tutte le manifestazioni. Questo è l'aspetto preoccupante del nostro calcio, perché noi siamo convinti di avere il campionato più bello del mondo, almeno eravamo convinti fino a qualche anno fa. Io credo invece che siamo talmente legati a casa nostra e non vediamo un po' più là del nostro naso. Credo che in Germania, che non seguiamo molto, il campionato è decisamente competitivo e di grande livello. In Inghilterra lo stesso. Beh, oddio, in Germania il Bayern ha 20 punti di vantaggio sulla seconda. Sì, ma se noi ce la giochiamo con la seconda, voglio vedere come va a finire. Ah, ecco, quindi questo è il problema. Che poi è Borussia Dortmund, che è in semifinale di Champions League, quindi non è poi sta piccola però seconda. Ha detto no al top player perché tanto non cambia molto, però oggettivamente, secondo me, l'arrivo di Balotelli, che non so ancora se è un top player, però ha dato un altro passo là davanti. Sì, poi, è vero, però il Milan ha cambiato lo stile, cioè anche passo. È chiaro che il Milan è stato rifondato quest'anno con una squadra molto giovane, con giocatori sicuramente di qualità, perché non vai avanti se non hai giocatori di qualità, giovani che però hanno avuto bisogno di un tempo di adattamento, e questo direi che benissimo per il Milan, perché è stato bravo a supportare l'allenatore. Molte volte, come vedete in altre realtà, mi riferisco, che ne so, al Palermo, al Genoa, cambiano gli allenatori come se fosse il problema principale. Il problema principale è che quando una squadra nasce male, diventa difficile a rimetterci mano. Questo è il concetto principale, secondo me. Ecco, senta, allora, per la Champions abbiamo più o meno capito come la pensa. Andiamo un po' in fondo alla classifica. Siena, Genoa, Palermo, perché il Pescara mi sembra ormai messo un pochettino male. Siena 30 punti, Genoa e Palermo 28. Chi è che va giù fra queste due squadre? Potentemente Siena ha 36 punti, se guardate bene, perché hai 6 punti di penalizzazione. Quindi è una squadra che in questo momento sarebbe salva tranquillamente rispetto alle altre. Io credo che il Genoa, che ha buoni giocatori, il Palermo stesso, non siano abituate a vivere questa realtà. All'inizio di stagione nessuno avrebbe ipotizzato, né Genoa né Palermo in fondo alla classifica, però ti trovi lì e diventa difficile. Ma è così diverso? Io mi astengo, credo che sicuramente il Pescara sarà il retrocesso, ma per le altre due da mettere insieme al Pescara penso che sia difficile. Cioè, non ha neanche qua da fare la dichiarazione, perché le polemizzano in Albania? No, in questo caso. No, non vorrei dire delle esatto. Però è chiaro che adesso lì se la giocano quelle tre squadre lì, i due posti. Mister, è sempre un piacere averla qui in studio con noi. Purtroppo non è qui in studio. A presto. Forza Albania, non Forza Italia. Se no, poi sui giornali domani in Albania. Ecco, tifa ancora Italia, ce l'avranno. In Albania sono tutti che tifano in maniera pazzesca le squadre italiane. Anche quando gioca la nazionale, ovviamente quando non ci giochiamo noi contro, non ci giochiamo mai. Uh-huh. Loro sono tifosi veramente incredibilmente attaccati alla nostra nazionale. Scoperto questa cosa anche a Capo Verde. Tutti tifano per il Milan e per l'Inter, non si capiva perché. Vabbè, comunque la ringraziamo molto, a presto. Se voi, un saluto, grazie. Allora andiamo via di Fantacalcio in qualche modo, velocemente, proprio ai 30 secondi. Ce la facciamo. Cagliari-Inter 2-0, Piniglia su rigore, poi Piniglia, Chievo-Catania 0-0, Genoa-Sandoria 1-1, secondi. Matuzzale-Mederi marcatori, espulso Costa, Parma-Udinese, doppietta di Muriel e Pereira, 3-0 l'Udinese 3. Sul Parma, Roma 2, Torino 1, Bianchi del Torino, Osvaldo e la mela della Roma. Abbiamo finito. Banfi via come linea GR. Sì, no, beh, c'è ancora tempo. No, allora. No, avete messo un po' di ansia, scusa. Magari comunque, la gente aveva altre cose da fare. Espulso Costa nella Sampdoria. Questa per il fantacalcio. Questa è l'unica notizia che dobbiamo dare il fantacalcio, no, in questo caso. Il fantacalcio, perché poi tutti parlano dei gol, del risultato. C'è anche un'espulsione, quella di Costa. Posso dirti, sei veramente insopportabile. Lo parleremo prima o poi della Formula 1. Non lo so. Nel frattempo arriva il GR. Dai e vai. Dai e vai. Non è solo calcio. Su due piedi così, sì. Oggi sarebbe stato utile avere a fantacalcio Muriel. Muriel che ha fatto due gol, giusto? Sì, Muriel, sì, direi Muriel, oppure anche Megara o anche Togni, ce l'hai solamente tu. No, sicuramente a fantacalcio il migliore chi, di oggi, scusa, Togni. Togni che ha segnato ieri sera nel Pescara, sì, di sì. Sicuro non era il caso di avere Dennis che è stato espulso, Costa che è stato espulso, oppure Sorrentino, il portiere del Palermo, che oltre a prendere il gol, secondo me più di 4 non gli danno, quindi... Ah, gli danno anche il voto? Sì, però si largheggia, non è più il calcio di una volta. Stai dicendo che c'è troppo buonismo? C'è buonismo nel calcio, insomma, in qualche modo. Allora, noi l'abbiamo abbandonato a se stesso, in maniera anche un po', come dire, vigorosa. Il taglio è stato di quelli sani, quelli giusti, perché inopinatamente in quel momento stava succedendo di tutto. Luca Cancellara, ci sei? Eccomi. Mi fate sentire solo perché finiscono le partite, no? Esatto. È facile far così. Sì, no, scusa, fammi capire, tu sei lì a Seregno? Esattamente, in questo momento sono dentro al palazzetto dello sport, dove fondamentalmente quelli che hanno fatto l'impresa, e ricordiamo di che impresa stiamo parlando, 100 chilometri? 100 chilometri di corsa, il primo ci ha messo 7 ore e minuti. Ecco, scusa, fermati un attimo, ci abbiamo Flavio da Parma. Ciao Flavio, pronto? Pronto, eccoci qua. Ciao, come va Flavio? Tutto bene? Tutto bene. Io volevo parlare della Juventus, delle dichiarazioni di Conte. Hai la radio accesa, Flavio? Come? Hai la radio? Non sono proprio la radio. Hai la viva voce allora, quindi. Cioè, nemmeno. Neanche, cosa fai? Sono al telefonino normale. Sei dentro una caverna. Casa mia. Ah, bene, allora dici tutto, Flavio. Volevi parlare della Juventus? Sì. Il signor Conte, allenatore della Juventus, io sono juventino, ha detto secondo me una realtà, cioè le squadre italiane purtroppo sono inferiori alle squadre straniere. Come se ne esce da questa situazione? Cioè, purtroppo siamo lo specchio della società e quindi adesso dobbiamo tirare un po' i remi in barca o dobbiamo armarci di fantasia? Ah, tu stai facendo una domanda a noi o te la stai facendo retoricamente a te? Ma la faccio a tutti. Al mondo. Ho capito. Vabbè, quindi, Come se ne esce? Adesso facciamo che te la chiediamo noi. Come se ne esce secondo te, Flavio? Ma se ne esce dovremmo fare tutti come fa l'Udinese, come fanno queste squadre, andare a beccare dei giocatori sconosciuti, e qui deve essere veramente bravo un dirigente, non so, un osservatore, certo, a beccare quello che non costa caro fra due anni. Certo. Ma quello che adesso ancora è sconosciuto. Quindi tu dici, come soluzione, tu intravedi questa soluzione di andare a cercare dei giovani possibilmente bravi con delle prospettive. Non ne vedo altre. Perfetto, grazie. Mi piace questo intervento, grazie. Telefonaci ancora, Flavio. Grazie, Flavio. Ecco. Sai che cosa mi piace di Flavio? No, io quello che mi fa incavolare veramente. Di Flavio? No, tuo. Sì. Cioè, che tu lanci questi dibattiti fuori onda. È vero. E Flavio. Chi ha chiesto qualcosa sulla Juventus? Nessuno. Nessuno. Cioè, però la cosa positiva è che Flavio non ha parlato dello stadio di proprietà. Questo è positivo. Allora, Luca Cancellara, siamo ancora a Seregno. Giusto? Sì, devo dire però che la vostra maleducazione aumenta di minuto in minuto, solo perché oggi c'è la giornata di campionato. Io sono qui, questa è la giornata sportiva. Lo diceva sempre la mia mamma anche questa cosa. I veri eroi che ci hanno messo 7-8 ore per percorrere 100 chilometri qua a Seregno. E infatti sono qui, si è appena alzato dal lettino Marco Lombardi, che ha percorso la 100 chilometri ed è arrivato terzo. Marco, come stai intanto? sono un po' provato perché ho avuto dei problemi muscolari durante tutta la gara e quindi che strana questa idea. Però cinque denti sono riuscito a strappare una più che ottima terza posizione. Certo. A che chilometro del 100 hai iniziato ad avere i problemi? Primo chilometro. Ah, quindi fortunatissimo, insomma, è stata la tua giornata sportiva. E gli altri 99 come sono andati? Come hai fatto ad arrivare alla fine? Ogni chilometro pensavo ora mi ritiro, invece ho strinto i denti, sono arrivato in fondo e è andata bene. Cioè lui dal primo chilometro stava già male. Sì. Esatto. Luca Gattuso, tu quando vai a allenarti dici adesso mi fermo, tu ti fermi, non è che vai avanti altri 99 chilometri. Al 31° minuto, perché non tengo. Cancellara, Luca Gattuso si è fermato 10 anni fa però, te lo dico così. Non sono mai ripartito. Sareste dovuti venire voi oggi per capire qual è la differenza tra i loro veri uomini e noi in mezzo ai cartucce. Sì, no, vabbè, Marco, certo. Marco, quest'anno quanti chilometri hai percorso? I primi 4 mesi dell'anno? Tolti questi 100 però. All'incirca con allenamenti e gare più di 1500. Ecco, ma perché? Ecco, perché? Qual è la tua colpa che devi espiare? Ma non c'è una colpa da espiare, è soltanto la passione, viene dal cuore. Ogni volta prendi, ti metti le scarpe e vai a correre. Correre è la corsa per me, è libertà. E quindi più corro più mi sento libero. Il tamaro dell'atletica, della marcia, insomma, anzi della corsa. Proprio così, corsa. Tu Marco accetteresti altri di suggerimenti da noi per altre passioni per finire queste tue fatiche? Se vuoi noi le abbiamo, vero Luca Sergio, cioè noi possiamo aiutare Marco nel trovare altre passioni della vita. Sì, ma deve confidare in te comunque Luca. Ah, dicono che devi confidare in me, quindi guarda, la partita è già, quanti bicicli hai totalizzato alla fine di questi 100 chilometri? Ma una 7-8 tutte, e un'unghia nera. No, l'unghia nera no. L'unghia nera no, guarda, io sono l'unghia nera, scusa, sto male Luca, ti dobbiamo lasciare anche perché c'è Antonio dalla provincia di Milano che ci sta telefonando. Ciao Luca, resta con noi però, non ti muovere, resta lì perché l'824-0024 è arrivata la telefonata. Ciao Antonio, pronto? Buonasera. Come va? Una meraviglia. Da come lo dice mi sembra che sei tifoso interista. Bravissimo. Ecco. Si capiva dal tono, cioè una meraviglia. Una meraviglia. Cioè, continuo a tirarmi su domenica dopo domenica. Certo. Mi sento... Io aprirei a questo punto se proprio dobbiamo aprire le telefonate, apriamolo per il problema Inter, perché di questo questa è la vera notizia. Cioè stiamo parlando stramaccioni, direi ormai no. Sì, no, non so, può darsi. Comunque l'824-0024 oppure al 349-238-6666. Antonio, come possiamo tirarti su di morale? Ascolta, no, vorrei un quesito, ma per fine campionato riuscirà a capire come mettere in campo la formazione? Perché dici che è quello il problema, non è il problema il fatto che non avete attaccanti, no? Uno dei tanti, Ecco. Cioè tu dici, se comunque incominciamo a capire come fissare, no, la formazione in campo, almeno si parte da lì, no? Si può partire da lì. Esatto, cioè dall'inizio dell'anno continuo a cambiare. Io l'unica formazione ho visto contro la Juve a Torino, messa in campo. Come all'andata, dire. Quindi. Quando all'andata, è un ricordo ormai lontano. Sì, vabbè, c'è gente che dice, ma figurati, adesso l'Inter ha battuto la Juve, cioè, capito? Ma dai, non smettere di dire questa stupidaggine. Cioè, invece sì, all'andata l'Inter batté la Juve a Torino, tra l'altro interrompendo... Sì, no? 49 partite senza sconfitte. Sembra fantacalcio, mi viene da dire, no? Giusto, Antonio? Esatto, io continuo a rivedermi il DVD del triplete dell'anno, così mi tiro un po' su. Ti senti meglio? Altrimenti mia moglie mi vede sempre piangere. È quello che succede, no? Cioè, un po' uno sceglie sempre gli stessi dischi, si continua ancora a sentire Pink Floyd, hai capito, no? Prima o poi, perché con altro. No, a me piacciono i Beatles. Ah, ecco, perfetto. Okay. Okay. Li hai tutte, ti piace l'Inter e i Beatles. Vabbè, ciao, grazie. A risentirci. Ciao. 824-0024, 824-0024, se avete qualcosa da dire voi interisti, oppure non avete più neanche il dono della parola, oppure forse è il momento di tacere, questa potrebbe anche essere una soluzione. Back to something high. io non riesco a tagliare. Sono dei momenti in cui bisogna ascoltarla tutta fino in fondo, possibilmente a palla. Ecco, questa va proprio a palla, proprio con il gomito fuori dalla macchina. Esatto, se non hai la abbassati, sei a casa, metti il gomito fuori dal balcone, capito? Cioè non è che era dalla finestra, cioè, metti fuori il gomito dalla finestra, che te frega? Cioè, voglio dire, però l'importante è fare proprio la Tamarro, questa qua, proprio che ti entra dentro. Beh, sono comunque i Clash di Tamarro, non avevano, avevano ben altro. Però Vincenzo, Vincenzo da Milano, pronto? Sì, pronto. Interista? No, io sono napoletano. Ma sei venuto, vivi a Milano? Sei napoletano, vivi sì, a Milano? Sì, vivo a Milano, sono napoletano. E vai allo stadio stasera? Purtroppo non posso andare. Peccato. Vabbè. Quindi tu vuoi intervenire sull'Inter? No, vabbè, volevo dire la mia sull'Inter, che è bello vederla così. Vabbè, ma allora che modi sono? Cioè, sono soddisfazioni, insomma. Ma il bello del calcio è anche questo. Perché tu, sì, ma tu quando c'era il triplete soffrivi molto? Un po', cioè nel senso, l'Inter, Milan e Juve sono comunque le nostre avversarie, perché dopo tanti anni in B, poi il napoletano che vive a Milano, che tiene il Napoli, non è facile. Allora prendersi certe soddisfazioni fa piacere. Scusa, in quest'ordine, Inter, Milan e Juve? No, l'ordine è Juve, ecco. Inter e Milan. No, volevo ben dire che siamo in testa anche lì, non vorrei che poi dopo passasse. La rivalità con la Juve è sempre la più grande. Certo, voglio dire. Quello non c'è neanche bisogno. Poi odio Inter e Milan, cioè odio nel senso, odio calcistico. Certo. Inter e Milan, perché vivendo a Milano... Vabbè, quando il pronostico. Eravamo in B mi dicevano sempre tu non puoi parlare, certo. E allora ultimamente col Napoli mi sto togliendo delle belle soddisfazioni. E tipo stasera? Stasera ho paura perché il Milan, la media di un rigore a partita, partiamo quasi da 1-0. Ma tu, cioè voglio dire, questa cadenza milanese ma io sono nato a Milano. Tu sei nato a Milano però sì, solo di origine, però mi sento più napoletano dentro. Più napoletano il partenopeo che c'è in te, no? Ecco, l'orgoglio partenopeo. Sì. No, ma ti capisco, perché essendo io calabro sabaudo, capisci che diventi poi dopo calabro sabaudo. Sì. No, perché vivere a Milano da tifoso napoletano non è una facile. Vita d'inferno. È una vita d'inferno, specialmente quando eravamo in Serie B, tu non puoi parlare. Non me lo dire a me quando sei stato in Serie B come Juventus. Vabbè, ciao, grazie, è stato bello. Ciao Vincenzo. Ciao, grazie. Sergio, pronto, da Roma? Pronto, salve, vorrei parlare dell'Inter. Tu sei interista romano? Esatto. Già è difficile vivere così, figuriamoci sto periodo. Siamo pochi, però ci stiamo. No, vorrei semplicemente dire che trovo assurdo le persone che se la prendono con Stramaccioni, quando secondo me la colpa è al 100% di una dirigenza patetica che dal 2010 non ha fatto una scelta corretta di mercato e che oggi ha costretto l'allenatore a mettere in campo una squadra che dovrebbe lottare per la retrocessione. Cioè tu dici anche senza gli infortuni l'Inter sarebbe un Inter mediocre, questo che stai cercando. È un Inter mediocre che ha fatto scelte sbagliate di mercato, da Schelotto, Kuzmanovic, Gargano, Mudingai, cessione di Livaia, ma per non parlare anche degli ultimi anni in cui abbiamo sempre scelto il momento sbagliato per vendere i giocatori, vedi Snyder, vedi Maicon, che ho lo stesso Milito che nel 2010 voleva andare via, se l'avessimo fatto prima magari... avremmo fatto un po' di cassa e comprato qualche giocatore un po' più giovane. Però Milito ha fatto il suo nelle scorse stagioni, cioè ha fatto il suo in una squadra che però non era all'altezza e quindi si è rivelato abbastanza inutile come contributo. Ma si è fatto un male giocatore anche... che dopo la finale di Champions si dice vediamo cosa succederà del futuro, io l'avrei mandato via. Ecco, ma scusa, ma ve la prendete anche con Moratti? Moratti mi fa un po' pena perché è in mano a una dirigenza incompetente e ogni tanto anche delle uscite sgradevoli sugli arbitraggi, sui complotti, cose che sono abbastanza così, si commentano da sole. Ok, va bene, grazie, a risentirci, a presto, ciao, grazie. Fai parlare anche gli altri, vuoi che ti dicano tutti gli impropri che ci ha mandato questo numero che finisce tra l'altro con un... 7-1, quello lì? Ecco, quindi che tutte quelle parolacce che ti hanno detto, a te tra l'altro, certamente a me, voglio dire in questo caso. No, volevo dire che c'è la cosa che ci interessa in questo momento è che noi vorremmo trattare un argomento un po' strano. italiano un po' particolare, no, che non c'è, no, sì, no. una realtà di cui si pensa poco, nel senso che noi vediamo questi calciatori che si spostano, fanno il trasferimento da una città all'altra, la vita del calciatore, poi al di là del, più che la vita del calciatore, la vita della famiglia del calciatore, perché molti di questi, adesso dobbiamo anche occuparci della famiglia. Beh, molti di questi ragazzi che sono giovani magari si sposano a 18, 19, 20 anni. È colpa mia, scusa. No, non è colpa tua, però questo comporta, poi lo vediamo spessissimo, l'abbiamo visto con Messi, che magari ha avuto di recente. Sono felici, però. Beh, sì, sicuramente sono felici, hanno i figli, hanno le famiglie, però c'è questo problema che il trasferimento da una squadra all'altra, un giocatore che dalla Juventus si sposta a Napoli o dall'Udinese va a giocare a Roma, comporta anche lo spostamento della sua famiglia. Certo. E c'è qualcuno che a questo aspetto ha iniziato a pensarci. C'è un nuovo social network che è nato, questo social network si chiama Soccer Planet, tra le altre cose, perché contiene molte cose, tratta anche i traslochi e gli spostamenti delle famiglie dei calciatori di Serie A. E noi abbiamo al telefono Sara Piccinini, che è l'ideatrice del progetto Soccer Network. Sì. No, Soccer Planet. Pronto? Pronto, sì, ciao. Ciao Sara, come stai? Ciao. Diamoci del tu, Sara. Bene, grazie. Perché so che si usa così, bisogna sempre far finta di conoscerci da una vita, insomma, in qualche modo. Ah, ok. Tutto bene, Sara? In famiglia? Sì, va la grande, tutto sì, a posto. Vabbè, insomma. Beh, hai detto famiglia giustamente, perché ricordiamo. Non diamo la notizia, facciamo come, mettiamola a parte questa notiziola qua, no? Perché diciamo chiaramente, allora, che tu hai, come ti è venuta questa idea, questo sito in cui il problema di principale è quello di cercare di trovare case, no? Se abbiamo capito bene, sì. Case sì. Per i giocatori di calcio che in qualche modo devono trasferirsi. Tipo, se tu avessi avuto Tony, per esempio, sì. All'interno del tuo sito, allora sciambola, perché Tony ha cambiato quante squadre. Ha cambiato una decina di squadre, si è passata dal Vicenza al Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern di Monaco, Roma, Genoa, Juventus, l'Al Nasr a Dubai e poi è tornato alla Fiorentina. Complessivamente, se dovessimo collegare tutte queste città, ha fatto quasi 17.000 chilometri. Allora, che cosa succede in questo sito? Allora, il sito, vabbè, l'idea è nata proprio perché è un'esigenza della categoria, diciamo. Tu, anche soltanto nel parlare nello spogliatoio tra di loro, è sempre il problema, l'unico problema che si ritrovano a risolvere da soli, diciamo. E allora ho detto, ma perché no, nell'era di internet, non sfruttare il web per creare una rete di spogliatoi, diciamo, per tutta Italia, nel senso che comunque tra di loro, poi cambiando spesso città, si possono passare un po' il testimone, quindi anche condividere queste informazioni e agevolare i spostamenti di tutti. Quindi diciamo l'idea di base è proprio quella di condividere le informazioni già in prima persona loro, i calciatori stessi. Ecco, ma quali sono le informazioni principali? Tipo quella casa, la villa villa in collina, dico villa collina non a caso, voglio dire, in questo caso, pure l'albergo, il residence, questo tipo di cose, ma anche l'idraulico magari, se sei lì a... Ma tutto, qualsiasi cosa. Il nostro portale... Sì, aperto a tutto, c'è una suddivisione all'interno del sito base tra servizi, diciamo, utili, che noi li abbiamo chiamati utili proprio per le esigenze, diciamo, di base, che possono essere l'aiuto per la famiglia anche del pediatra, del medico, tutte queste informazioni. Tutto, perché comunque quando ti ritrovi in una città nuova ti ritrovi a dover cercare tutto da zero, allora la prima cosa che fai va un po' sull'esperienza degli altri, dici vabbè, se non sono morti loro vado bene pure io. Ma quindi in realtà uno dei grandi mercati sono gli stranieri che arrivano? Ma no, non solo, anche gli italiani. Anche comunque gli italiani che girano, insomma. Sì, perché quando arrivi in una città nuova alla fine veramente devi iniziare a capire tutto, e magari anche la scelta della scuola per i bambini, che comunque... Sapere che è un tuo compagno, visto il fatto che la categoria ha bene o male tutto interessi comuni o comunque sono abbastanza similari tra di loro, diciamo, è facile anche che cosa è andato bene per uno vada bene anche per l'altro. Queste informazioni chi è che le inserisce? Le inserisce il calciatore che si è trasferito? Sì, ovviamente quando siamo proprio in una fase di partenza, quindi siamo un po' noi, redazione di Soccer Planet, alla ricerca di queste informazioni. Non a caso poi l'idea è piaciuta talmente tanto che ora stanno iniziando a collaborare con me anche altre due mogli di altri calciatori. Stiamo cercando di creare proprio una rete alla fine più forse anche al femminile che maschile, partita più l'esigenza da noi che siamo noi a dover avere questi problemi. Che poi siete le mogli dei calciatori. Sì, sì. Diciamolo, perché poi prima o poi tanto si sa, no, in questo caso. Sì, sì, sì. Voglio dire, no? Ecco, per esempio, il vostro trasferimento a Torino, È stato faticoso? Io sono stata fortunata perché ho una carissima amica che gioca nel, il marito gioca nel Torino e mi ha aiutato. Ma attenzione! Quindi sì, è un derby in casa. Un derby quasi familiare in questo caso. Sì, sì. Quindi vabbè, insomma. Vabbè, quindi l'avete risolto facilmente in questo passaggio, giusto? Noi sì, in questo tipo io un po' Torino la conoscevo perché avevo anche un parente qui da tanto tempo. Insomma, mio zio ha sempre vissuto qui, quindi. Quindi sei stata agevolata. Ecco, sì. Vabbè, insomma, va bene. Adesso allora diamo subito, andiamo dove ci può andare a trovare sì. Questo sito. Il sito è www.soccerplanet.it sì. E lì ci sono tutte queste informazioni. Ecco, una cosa, qual è la cosa principale più importante quando ci si trasferisce, quella più richiesta? La casa e se una famiglia ha bambini al seguito, la scuola. Casa e scuola sono subito, soprattutto se il trasferimento avviene anche nel mercato di gennaio, in cui tante volte ho sentito mie colleghe, insomma, ti chiamiamo così, magari far scelte anche di non seguire subito il marito per non far perdere la scuola e i figli, perché il trasferimento non è così rapido sempre. Certo, per capire adesso Sara, cioè come ha preso sì. Poi, si è ripreso dal Bayer? Ma sì, è dura. È dura. Si è un po' ripreso dal Bayer, diciamolo. Cioè, sì, si è ripreso. Sì. Ma forse mi devo riprendere più io, che sono tifosa juventina. No. No, ma infatti tu va bene, hai tutto il tuo tempo. Lui deve riprendersi perché domani gioca, magari. No? Quindi sì, in questo caso. Grazie Sara, grazie per la tua disponibilità. Niente, a presto. Diciamo, ciao, grazie. Grazie ciao. Mille Sara. Lo diciamo adesso. Federico Peluso. Esatto, cioè, Sara Piccinini accompagna la moglie di Federico Peluso, il giocatore della Juventus. Pubblicità, meteo, poi Stramaccioni. Dai e vai, non è solo calcio. Quindi io le chiedo il giudizio su questo episodio, velocemente, sui Barbo. No, ma non, non è male questo episodio. Dessero il rigore sui Barbo e non dessero quell'altro. Cioè, nel senso, secondo me, che è molto comunque semplice, ci sono stati episodi, come dire, no? In cui si è chiuso un occhio sbagliando. No, ma io sì, però sicuramente quello che voglio dire sì, è che comunque strama, il dici. Rigore. Questo ancora è un episodio, Kuzmanovic allunga la gamba, il Barbo non c'è contatto, ma la dinamica sì. Probabilmente è di fallo, ma quello di come fai a fischiare il rigore? L'altro non c'era, ecco, insomma, cioè, sta uscendo fuori adesso la polemica e il rigore che non c'era, giusto? Il suo presidente vabbè. Ecco. Quando dice vabbè, insomma. Che non creda più alla buona fede degli arbitri, perché l'Inter non può più credere alla buona fede degli arbitri, lei ha detto no, rientriamo sempre nell'errore arbitrale, non nella non buona fede. Attenzione. Ma io quello che il mio presidente è giustamente è sovrano e ha molta più esperienza di me. Io no, parlo no, per ognuno quello la che pensa penso come io, vuole, però. E poi c'è polemica. No. Comunque, Ilaria, potresti dire a tutti quelli che ti stanno intorno di star zitti, perché sta mormorando, cioè voglio dire, porra, no, ma zitto. C'è un microfono aperto, secondo sì, me, qua dove è Stramaccioni. Credo, sport, credo in questi valori, quindi. E l'Inter ancora una volta aveva ridimostrato di rientrare in campo convinta per far bene e purtroppo ancora una volta un rigore inesistente ci ha condannato. Ecco, quindi la linea è questa. Cioè, quindi torna l'idea del complotto. No, beh, complotto caso. No, però Inter condannata da un rigore penalizzata da un rigore inesistente. Ricordiamo il rigore di Piniglia, effettivamente molto dubbio. Sì. Probabilmente Piniglia non viene toccato dal giocatore dell'Inter, va giù per terra in area. Però permettimi anche di ricordare sì. Il risultato di oggi. Sì, 2-0 sì. per il Cagliari. No, perché se non diciamo perché ha vinto, poi dopo diventa abbastanza. No, 2-0 per il Cagliari, c'è da dire che appunto il risultato era 0-0 in quel momento e il rigore di Piniglia ha portato in vantaggio il Cagliari. 349-238-6666 349-238-6666 824-0024 invece per telefonare, l'altro numero invece per mandare gli sms. Roberto, pronto? Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Vabbè. Non l'hai sentita, di la verità. No. Sei sintonizzato adesso, dai. Mi seguo sempre, no? Non è vero. Cosa abbiamo fatto? Fare il furbo. Chi c'era in studio settimana scorsa? Vediamo se ci segui sempre. No, mi seguo sempre. Sì, vabbè. Dai, dici, bello. Tutto bene? riguardo sul Milan, no? Io credo che sarà molto duro, che arriva anche al terzo posto, perché stasera innanzitutto con Napoli sarà molto dura. Molto dura. Sì, secondo me sì. E in più c'è la Fiorentina che sta dietro, nel caso, speriamo che non perda il Milan, sì. C'è la Fiorentina a 3 punti. e quindi è proprio rischio anche Champions a questo punto. Ah, addirittura? Ah, secondo me sì. Roberto getta il panico fra i tifosi rossoneri, sì, è rischio Champions, questo è il titolo. Ha getto il panico, ansia rossonera, ansia rossonera. Purtroppo è ansia, perché no? Vabbè, l'ansia rossonera ci sta, insomma. Vabbè. Ciao. E poi riguardo l'ultima cosa, sono dispiaciuto per la Juve che è uscito anche in Champions. Anche noi. Ma dai, non ci credo. No, allora no. Infatti no. Roberto, dai, facciamo finta di crederci, dai, ci crediamo. No, credi. Ha sempre giocato bene e speravo che andassi avanti, però mi dispiace veramente per la Juve che è uscita, creda. Va bene, grazie Roby, ciao. Grazie Roby. Ecco, non ti impressionare così quando vedi che uno della Sampdoria cade e c'ha il piede che c'era la caviglia ad angolo retto, insomma. Il piede ad angolo retto rispetto alla tibia, il fallo di Mattuzzane su Kristicic poi è uscito, ovviamente. Sì, aveva da fare, aveva un appuntamento stasera e quindi se n'è andato a fare un giro da questo punto di vista, quindi questo ci riempie di gioia. Ricordiamo 349-238-6666, questo è per mandare gli sms, e invece 800-24-0024 se volete proprio telefonare. Ma parliamo ancora una volta a questo punto di Roma, di Roma e parliamo di radio romane. Esatto, sappiamo che la realtà delle radio romane è tutta particolare, chi abita a Roma ovviamente la conosce, chi non anche vive... la realtà del tifo romano in particolare, visto il derby, che cosa è successo ovviamente per il derby. Ci sono addirittura radio che dedicano gran parte delle loro trasmissioni a seguire una delle due squadre di Roma, oppure altre radio che dedicano al calcio molto spazio. Ebbene, si è venuto a sapere nei giorni scorsi che la Roma Calcio ha dato incarico a una società non di Roma ma di Bolzano di seguire, di monitorare 5 stazioni radio romane per vedere tutto quello che viene trasmesso 24 ore su 24. Per sentire forse. Sì, scusate, per sentire. Ho detto vedere. Questa società si chiama Euregio e a dirigerla c'è un signore di 37 anni il cui nome è Omar Signori, e noi abbiamo Omar Signori qui in diretta da Eva e su Radio 24. Signori, buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo detto tutto giusto? Avete detto tutto giusto, non è 24 ore su 24, è un po' meno perché chiaramente di notte non viene fatto alcun monitoraggio, ma gran parte del programma del palinsesto della mattina e del pomeriggio viene coperto da questo servizio. Cioè, di notte mi ha fatto monitoraggio perché non succede nulla di notte? Delle radio... Perché non ci viene chiesto. Ah, ecco. Poi non so se non succeda nulla. Sì, no, perché insomma nella radiofonia la notte ha pur sempre un suo peso, insomma. Voglio dire, certo. No? Si ricorda Lupo Solitario, no? Questa cosa che negli anni 50, insomma. Ecco, cosa succede di interessante nelle radio romane in questo caso, che è un po' un'anomalia a livello italiano, forse non so se a livello europeo, forse a livello mondiale. No, le radio, per esempio latinoamericane, ce ne sono tantissime che parlano e raccontano di cose di questo genere. Però in questo caso che cosa succede a Roma? Ma queste radio danno un grande spazio ai tifosi della Roma, specificamente della Roma Calcio, e quindi ci sono una serie di interventi di più o meno coloriti riguardo a ciò che fanno i giocatori, le scelte della direzione, gli esiti delle partite, ciò che i tifosi vorrebbero e quant'altro. Ma la Roma le ha chiesto di monitorare questo perché? Ma il motivo per cui me l'hanno chiesto è un motivo che conoscono immagino solo loro. Diciamo che sicuramente con un servizio del genere è possibile consentire a chi interviene o alla radio stessa di poter amplificare ciò che dice. Mi spiego, molto di ciò che viene detto nelle radio viene colto solo da chi la sta ascoltando in quel momento, come adesso, ma chi partecipa alla radio, chi conduce un programma, desidererebbe avere il pubblico più ampio possibile. Questo sistema mette in condizione la Roma Calcio di fruire di tutti i contenuti che vengono rivolti alla stessa squadra di calcio da parte di tutti i partecipanti, quindi intendo dire tifosi piuttosto che cronisti, giornalisti. Ecco, ma voi cos'è che fate? Cosa vuol dire monitorare queste radio materialmente? Allora, la mia azienda ha sviluppato un sistema per monitorare tutta la stampa in generale. Per quanto riguarda la parte audio e video è la parte più sfidante, perché significa utilizzare dei sistemi avveniristici per la trascrizione del parlato indipendente. Cioè voi trascrivete quello che viene detto in onda? Non fisicamente, nel senso non degli esseri umani. Il centro di ricerche FBK di Trento, tramite uno spin-off della società che si chiama Per Voice, ha sviluppato una tecnologia per trascrivere in maniera automatica, quindi il computer, semplificando, trascrive in maniera automatica ciò che viene detto, indipendentemente che sia io, lei o chiunque, certo, a parlare. Ha un grado di affidabilità davvero unico nel suo genere, è una tecnologia tutta italiana e ha ricevuto i più ampi riconoscimenti a livello internazionale. Noi l'abbiamo declinata all'interno di un sistema di monitoraggio dei media, che significa che noi ascoltiamo ciò che dicono i media, trascriviamo e tramite delle keywords o parole chiave che il cliente ci indica viene avvisato in tempo reale di ciò che viene detto. Ecco, ricordiamo che queste radio non fanno parte della Roma, sono radio che parlano della Roma. Assolutamente. In questo caso. Quindi c'è anche una forma di controllo per capire sia l'immagine che ha la Roma all'interno di queste radio, la comunicazione da dare in generale a questi media e via dicendo, ma anche un controllo di questi media, possiamo immaginare, giusto? Indubbiamente, si può fare tutta la business intelligence che si vuole con il monitoraggio dell'informazione, quindi anche capire che toni stanno prendendo determinate trasmissioni, capire quale speaker rivolge più un'attenzione positiva, chi neutra, chi negativa, e quindi indubbiamente. Ma voi fornite un report alla Roma? Noi forniamo un portale di accesso dove loro possono interrogare con qualunque parola. Ah, okay. Che viene pronunciata, piuttosto che fare avere una trascrizione di tutte le trasmissioni di cui loro ci richiedono il monitoraggio. Noi la ringraziamo molto per questa intervista, e soprattutto per capire se per caso la Roma chiedesse anche di seguire da Evai, magari vediamo di non parliamo male di pallotte del pupone, ecco. Stiamo tranquilli. Grazie, buona giornata. Yes, salve, arrivederci. Dai e vai, non è solo calcio. Ci portiamo un po' avanti, in questo servizio, anche perché insomma è giusto. Adesso in Italia siamo tutti allenatori, no? E cogliamo sempre l'occasione per o giocare a calcetto o giocare a calcio. E quando va male sia calcio che calcetto, come minimo tentiamo di fare una nazionale. Sì. Che siamo sempre ci sbatte con dei matti per fare 11 giocatori e la chiamiamo nazionale, sì, in questo caso qua, no? Però questa nazionale è arrivata prima delle altre nazionali, quella di cui stiamo per parlare, stai dicendo. Non è la nazionale cantanti, no, capite questo? Quella era vecchia. Non è la nazionale sassofoni, no. Cioè, capito questa neanche cosa qua. Quella dei Vigili del Fuoco, no, la nazionale dei Vigili del Fuoco neanche quella dei sacerdoti di cui abbiamo parlato, no, dai, no, mai qualche tempo fa, neanche quella, no, è no. Ancora prima, cioè prima ancora degli altri. Ma la nazionale degli antenati, non lo so. Non so, forse la nazionale cantanti è nata prima. Mi sa di sì, quella lì. Mi sa che è stata la prima. Quella. Adesso la nazionale autori, capito? Autori? È l'autore delle canzoni dei cantanti. Ah, okay, sì, quelli sì, è vero. Perché fanno una cosa. Però poi, ecco, prima di tutto ciò, no, nacque quello che cosa? La nazionale scrittori. Scrittori, che non erano proprio gli scrittori che scrivevano di calcio, però scrivevano anche di calcio. E adesso gli scrittori si mettono a giocare a pallone. Hai sì, capito? Nel senso che in qualche modo, no, cioè la Soriano Football Club, sì, è nata tanto tanto tempo fa, e ne parliamo con Davide Longo. Pronto Davide? Buongiorno. Ti ricordi quando è nata dalla Nazionale Scrittori? Credo che sia nata intorno al 2001-2002. Esatto, sono stati 10 anni. Bravo. Ti vedo attento, Tu quanti anni avevi, scusa Davide? Ero uno dei primi fondatori, quindi. Quindi in questo caso. Quindi Osvaldo Soriano Football Club, questo è il nome della nazionale degli scrittori. Da esperienze dei vostri avversari dicono che picchiate come dei fabbri, è vero? Beh, certo. No, non è vero. Diciamo che dove il fiato non può arriva la cattiveria, sì, però sì. Mai però prendere un pallone ogni tanto, voglio dire, questo è un po' il problema. No, però io so che loro possono fare. La cosa strana è che ogni tanto ci sono dei giochi degli scrittori che di calcio proprio non ci capiscono diciamo niente, però fan parte della nazionale scrittori, no? Cioè un po', no, come fiancheggiatori in questo caso, no? In questo elemento. Ci sono giocatori, diciamo così, che non hanno scritto di calcio e ci sono scrittori che non hanno mai giocato a calcio, però insomma sì. Lo spirito è quello. No, voglio dire, perché mi ricordo uno dei soci fondatori, voglio dire, era anche Carlo Lucarelli, penso che non abbia visto neanche la palla, cioè voglio dire, girare in questo passaggio, no? Voglio dire, sì, cioè... Carlo Lucarelli era diciamo un supporter a bordo campo. Sì, sì, in questo passaggio. Vabbè, però parliamo di questo evento. Nessuno, perché ne dobbiamo parlare? Perché succede qualcosa il 26, 27, 28 aprile. No, quindi ci portiamo un po' avanti in questo caso. E andate a Brossasco, Cuneo. Cosa succede lì? Intanto andiamo a Brossasco, che è un piccolo paese all'imbocco della Val Varaita, uh-huh. E facciamo una 3 giorni che si chiama Scritture Doc, che è dedicata ai libri, all'amore per i libri, per la scrittura. Sono 3 giorni di lezioni, workshop, incontri, quasi tutti gratuiti. L'idea è quella di portare in questo piccolo paese appassionati della lettura, dei libri, aspiranti scrittori, per lavorare fianco a fianco con gli scrittori, i giornalisti e gli sceneggiatori che fanno parte della Nazionale Calcio. Perché avete scelto proprio Brossasco? L'abbiamo scelto perché io frequento quella valle da quando ero bambino, sono un uomo di montagna e mi piaceva l'idea di radunarci in un piccolo paese di montagna per essere proprio, come dire, molto vicini tutti quanti, e anche perché lì delle persone molto coraggiose hanno aperto questo centro che si chiama Segnavia, che è una libreria, un posto dove c'è attrezzatura di montagna, spazio per gli incontri e anche ristorante dove si mangia molto bene, e ha un campo da calcio proprio di fronte. Ah, ecco. Quindi diciamo così che in qualche modo si parla di calcio, si racconta di calcio e poi la nazionale giocherà a calcio, capito bene? Sì, noi giocheremo a calcio, una partita che come sempre è soltanto un pretesto. Due in tre giorni non siete in grado, diciamolo. No, esatto, diciamo, sarebbe velleitario pubblicizzarla come una partita di calcio vera. E poi in realtà parleremo di scrittura e di lettura e di libri più che di calcio. In generale di scrittura non necessariamente applicata al calcio, allo sport, giusto? No, infatti abbiamo chiarito nella promozione che stiamo facendo che è per gli appassionati della scrittura, dei libri e, come dire, la passione per il calcio non è necessaria, ecco, è gradita ma non necessaria. Però è necessario, no? Parlare di calcio in qualche modo, non necessariamente come viene sentito e ascoltato all'interno dei vari media. Forse raccontare, narrare calcio potrebbe essere una soluzione anche per cambiare. Beh, sì. No? Per certi non è un caso che noi abbiamo scelto Osvaldo Soriano come figura tutelare della squadra, perché lui è uno che ha raccontato il calcio in una maniera che interessa non soltanto agli appassionati di calcio, ai tifosi. Allora, io non mi ricordo la formazione, però adesso tu te la ricorderai ovviamente a memoria la formazione, no? Allora, Favetto in porta, poi Baretto. Favetto è, diciamo che oramai è un anche lui un supporter, abbiamo Lazzarini in porta, niente. Poi abbiamo Davide, che è un giornalista di Repubblica. Arriva il GR e ti salva, però le diremo noi i giocatori nel frattempo. Per fortuna. Grazie, ciao. Dai e vai, non è solo calcio. Segnato su Face? Sì, no, l'ho segnato. Cos'hai segnato? Ho segnato Osvaldo Soriano Football Club. Ah, e quello ho segnato, quello di cui abbiamo parlato prima. No, perché sennò poi hai segnato tutto. Sì, ho segnato anche Osvaldo le altre Soriano, cose. Sì, poi abbiamo c'è il link a Soccer Planet, il social network per le famiglie dei calciatori. Tanto per sapere. Poi se siete tifosi interisti in questo momento state soffrendo, perché sicuramente state soffrendo, la vostra squadra ha fatto soltanto 3 punti nelle ultime 5 partite. continuano a infortunare giocatori. Ricordiamo che oggi si sono infortunati Nagatomo e Gargano. Gli arbitri non mi guardano mai. No, beh, come ha detto Stamaccioni, gli arbitri solo errori, ma si ripetono. Questo ha detto l'allenatore. Il vostro numero di telefono è 800, cioè 800 24 00 24, per condividere, per socializzare la vostra tristezza di questa domenica di primavera. Mi ha fatto calare giù la depressione. Se sei interista, c'è il sole. Se sei interista, c'hai la pioggia dentro. Ecco, ti dico soltanto questo: vi ascolto dalla Germania, dove mi trovo per un periodo di studio e ricerca tifo. Ah no, studio e ricerca, punto. Non c'era il punto. Tifo per la Juve e per l'Inter. Sto godendo come una pornostar. Non voglio entrare nel merito. Questi sono i tuoi ascoltatori. Questo io ascolto perché c'è Luca Gattuso. C'è scritto. Tifo per... Altri campionati italiani, poi ti dite che noi parliamo solo di calcio. Noi non è solo calcio, parliamo anche di altro. Dai e vai la trasmissione, caso mai vi foste già confusi in questo caso. Solo calcio. Parliamo di ping pong? Non si chiama ping pong. Tennis tavolo, che poi si arrabbiano se dici ping pong. È molto vintage, anni 70 chiamarlo ping pong. È tennis tavolo, questo è lo sport. Quindi calcio valida anni 30. Calcio valida è molto anni 30. Questo caso. Il tennis tavolo dei campionati italiani paralimpici che ci sono stati proprio in questo fine settimana, si sono disputati a Lignano Sabbiadoro, amena località del Friuli al confine con il Veneto, dove ci si va d'estate perché c'è una spiaggia stupenda, ecco. E ci sono stati i campionati italiani paralimpici a cui è partecipato anche una ragazza che abbiamo al telefono, Michela Brunelli, che ha vinto, ha raccattato ori a sinistra e a destra. Non sa più dove metterle. Esatto. Michela, dove li metti tutti i story? Ciao, buongiorno a tutti. Quest'anno diciamo che è andata bene, dai. Allora, noi siamo qua, abbiamo il nostro computerino davanti, cominciamo a scrivere uno a uno tutte le medaglie che tu sei portato a casa, eh? Cominciamo, dai. Allora, ho fatto un argento nel doppio femminile con la mia compagna veterana di Roma, che insomma abbiamo sempre... fatto squadra insieme. Sì. Poi il doppio misto, sempre con un romano, e abbiamo fatto un primo posto, un po' inaspettato, perché c'erano alcune squadre più forti di noi, però noi siamo stati un po' più astuti, ecco, diciamo. Un po' più astuti, astutella. Nel tennis tavolo ci vuole tanta astuzia. Tipo si fa le boccacce e poi ti batti a sorpresa, cos'è l'astuzia del ping pong? Sono trucchetti che nel gioco si fanno, nel senso che magari una palla più corta, più angolata, piuttosto che una palla laterale, quelle che mettono, magari spiazzano l'avversario, insomma. Ecco, però Michela, un atleta che arriva da una medaglia d'argento a squadra ai giochi paralimpici di Pechino, giochi olimpici, paralimpici, nei campionati italiani, fa risultato, è ovvio, no? Il numero degli atleti è molto inferiore, cioè siamo di meno. Comunque anche il campionato italiano c'è un buon livello, e poi ci conosciamo tutte, è quello, e un po' la competizione la sentiamo forse di più perché ci conosciamo benissimo, insomma. E quindi però sai anche, ecco, lei una volta c'è che con qualcuno in particolare, sai che quello è molto forte, cioè queste cose qui, insomma. Però sa anche come batterli, quindi in qualche modo. Cioè, come l'anno scorso, che non è andata bene come quest'anno è andata meglio. A me fa impazzire questa cosa dei trucchetti, però, dovreste vedermi. Sono ancora finte, c'è queste cose, si fa la palla che torna indietro, una bella scucchiaiata. Spieghiamo bene la scucchiaiata. La scucchiaiata si differenzia dal cucchiaio di Totti, da che cosa? No, niente, praticamente è il movimento della racchetta di polso e tu praticamente la scucchiai come la dovessi far tornare indietro, appena tocca invece andare verso l'avversario torna verso di te. Ma dai, fa una specie di... Resta a bocca asciutta l'avversario. Ma quindi fai il fintone, cioè sarebbe, faccio finta, la mando avanti invece torna indietro in questo caso. Sì, bellissima, sì. Bellissima questa bisogna cosa. Bisogna avere molta sensibilità di polso, sicurezza, sì. Padronanza. E anche tanto bisogna tempo essere... per giocare, per provare. Cioè perché sì, io... Come no? Sono anni e anni che proviamo queste cose. Certo, immagino. Senti, tu hai vinto l'argento alle Olimpiadi di Pechino, mentre a Londra? A Londra è andata meno bene, anzi siamo venuti a casa con la maretta, nel senso che siamo stati sempre nella squadra, era nostra la medaglia, il bronzo, il terzo posto, e poi si sono un po' girate le carte in tavola e l'Inghilterra ha fatto da padrona. Oh, cioè polemiche in squadra, spaccature, nervosismi? No, l'Inghilterra poi ha vinto. No, ha vinto l'Inghilterra, però... Giocava in casa, insomma. Una medaglia, esatto. Ah, quindi... Abbiamo capito. Cioè, non è che sono lì che preparano... Allora, sono andati presto al mattino, hanno preparato i tavoli, hanno tirato le reti, hanno pulito tutto quanto e poi non portano neanche una medaglia. Via una medaglia. Esatto. C'è subito arrivato... Figuriamoci i principi, cosa dicevano poi. Ah, perché erano presenti a vedere? Stavano seguendo? No, solo nell'apertura dei giochi. No, ecco. Tra l'altro mi hanno subito bacchettato ping pong blasfemi. Ce l'hanno con te? No, ce l'hanno con te. Michela, di chi è che ha detto tennis tavolo e chi ha detto ping pong? Luca Gattuso. No, comunque ping pong ci va anche bene. Comunque a livello nostro tecnico agonistico è meglio usare il termine tennis tavolo. Noi non abbiamo nessuna forma di agonismo per il momento. Grazie Michela, complimenti per tutto quello che hai vinto. Vi ringrazio. Voi che parlate del tennis tavolo e non solo di calcio. Grazie. È solo calcio. Ma noi parliamo spesso anche di ping pong, tra l'altro. Grazie. Un abbraccio. Ciao Michela. Ciao. Io l'adoro. Grande Michela. Due ori, un argento, campionati italiani paralimpici di tennis tavolo. Michela Brunelli, una di noi qui a Dai e Vai. Traffico. Dai e Vai. Non è solo calcio. Capisco la musica. Manchester City sta vincendo 2-0 col Chelsea nella semifinale di FA Cup. Appena segnato il Kun Aguero dopo il gol di Nasri. Manchester City 2, Chelsea 0. Ti basta Sampdoria. Perché c'è il mancio lì in panchina che guida il Manchester City. Ecco perché. Torniamo a cose serie, anche un po', come dire, un po' sconosciute, e quindi però dobbiamo parlarne proprio perché sono sconosciute ai più e soprattutto a noi, e quindi le leggiamo proprio così. E la WADA è venuta a conoscenza che attraverso il mercato nero viene venduta e utilizzata da alcuni atleti una sostanza denominata GW501516. Potrebbe dargli un nome normale? No, cioè... Gino, per esempio. Esatto. Diamogli un nome. Cioè, devi prendere i grandi dopati per dare dei nomi. Hai capito? Esatto. Così. Cioè, devi essere un po' riconoscente, no? Perché anche loro in qualche modo hanno aperto la strada a che cosa? All'antidoping. Sì. E quindi hanno fatto diventare famoso l'antidoping. Noi quando parliamo di doping ovviamente facciamo un passo indietro anche 4-5 volte, sì. No, in questo caso, e chiediamo il parere agli esperti. Il grande esperto di oggi è Eugenio Capodacqua, che abbiamo qui con noi. È esperto di antidoping, non di doping, Eugenio, perché se no anche di doping. Non è che perché voglio dire, io sono esperto di cinema, devo fare per forza il regista, cioè, no, giusto Eugenio? Sì, giustissimo. Non è che ti sei provato tutti i doping tu, no? Per essere assolutamente no, è molto facile, poi oggi c'è internet, è un attimo tutti, quindi la teoria si può fare tranquillamente. Esatto, cosa che vuol dire, fino a un po' di poi tempo non c'è ragione di fare doping, perché cosa? Esatto, uno ha 67 anni, se vuol fare dello sport lo deve fare semplicemente per giocare e divertirsi, sì. Non ha senso. Ma se proprio vuol fare dello sport a 67 anni, cioè provo a fare un sacco di altre cose, tra le altre cose. Assolutamente sì. Per esempio suonare il sax, come il sottoscritto. Esatto, suoni il sax. Ma dai. Tenore più soprano. Ma sei un mito, cavolo. È un mito. Scusa, ma ce l'hai lì a portata di mano? Ce l'hai lì a dedicare una parte piccolissima della propria giornata alla propria vita personale, eccolo là. Che senti, Eugenio, sai che cosa ti ami adesso? Ecco, no, Eugenio, la cosa che ti volevo chiedere è che tutti quanti vanno in palestra, tu suoni il sax, hai il sax lì vicino? Com'è? Hai il sax lì vicino per caso? No, non ce l'ho qui. Peccato. Ma dovrei montarlo. No, vabbè, lasciamo stare. No, comunque stare. Se vuoi la prossima volta ti faccio anche sentire. Ah, certo. Beh, certo. dire, okay, se no siamo qua, no. Allora, noi non sappiamo. Se mi preparavo. Lo so, lo stacco almeno. Ma non lo sapevamo adesso. Quindi tu puoi dire che hai anche apprezzato questa versione dei Ramones, no? Cioè questa musichetta che hai sentito di sottofondo e che ti ha lanciato in questa fase. Senti, no, allora parliamo di questo GW50 1516. Beh, guarda, qui siamo di fronte all'ennesima sostanza, in questo caso la chiamano, visto che cercavate una definizione, la chiamano la pillola che fa crescere i muscoli, nel senso che diciamo agisce adesso sugli agonisti di alcuni recettori dei muscoli, cioè i recettori che inibiscono la costruzione del muscolo, e quindi il muscolo si sviluppa autonomamente quasi senza bisogno di fare esercizio fisico. Ovviamente è una molecola molto pericolosa, perché ancora non ha finito lo stadio di sperimentazione. In più, siccome ne esistono delle versioni, come si dice, taroccate, che arrivano quasi tutte dall'est e che si acquistano sotto internet, alcune di queste molecole addirittura sono tossiche. E la WADA se n'è accorta perché l'ha trovata nei campioni dei test da analizzare. Ecco, ma quindi questo già deve far riflettere un attimo, deve far capire una cosa fondamentale, cioè la quantità di rischio che è disposto a sostenere un atleta X qualsiasi, va bene, sia esso amatore che professionista di altissimo livello, capace di prendersi un prodotto di cui non si sa nulla, qualche informazione generica su internet, che ti arriva pure su internet da un'azienda che tu non conosci, non sai che cosa fa, con nessunissima garanzia, che per di più in questo caso è addirittura tossico, al punto che la WADA getta l'allarme. Ecco, dalla cosa che credo dirti, che adesso tu hai sottolineato questo aspetto che potenzia, comunque fa ingigantire guardandoli soltanto i muscoli, questo come dire mi terrorizza un po', perché immagino che il passaggio successivo e poi quella è la fase di massa, cioè quello delle palestre, dei palestrati. Sì, sì, ma infatti se fai un giro su internet, tu vedi che c'è già un tam-tam abbastanza nutrito di gente che dice, però è interessante, qui, là, a destra e a sinistra, ma si sa qualche cosa di più, qualche cosa di meno, dove si può comprare, eccetera, eccetera. Purtroppo questa dell'apparire, questa del palestrato che deve far gonfiare i muscoli, eccetera, eccetera, è un altro degli aspetti che francamente io personalmente capisco molto poco di questa società. Rovinarsi la salute in quella maniera, correre dei rischi in quella maniera, perché cosa? Fa vedere che c'hai un tricipite grosso o un quadricipite femorale più grosso delle braccia, insomma, lo trovo assolutamente ridicolo, soprattutto con queste quote di rischio, assolutamente, insomma. Ecco, ma questo comunque è ancora viene ancora venduto soltanto al mercato nero. Quando si parla di mercato nero qua diventa poi una situazione un po' strana, perché qualcuno deve avere pure prodotto questa sostanza. Ma guarda, ormai io faccio fede su quello che per me è un po' il Vangelo, no? La famosa inchiesta che fece il professor Sandro Donati per conto dell'Associazione Libera, e che riguarda appunto la diffusione dei cosiddetti principi attivi delle sostanze dopanti nel mondo. Ormai si sa come funziona il gioco, ormai è un mondo globalizzato, l'economia è globalizzata, a Oriente producono le materie prime perché ci sono delle leggi molto più tolleranti, queste materie prime arrivano e vengono trasformate in Occidente e vendute in Occidente. Ma per avere un'idea precisa di che cosa è il doping in Italia, perché noi poi dopo parliamo di doping quando, come per esempio, ecco, recentemente il 17 marzo scorso, con questo prodotto, il GV501516, è stato beccato il solito russo di turno, no, Kaikov. Quindi vuol dire che insomma è abbastanza diffuso, perché addirittura, siccome non è che i controlli li fanno a tutti i giocatori, a tutti, certo, gli atleti, a tutti i corridori, a tutti gli atleti del mondo, quando ne beccano uno vuol dire che almeno 10 passano tranquillamente il controllo. Però per avere un'idea precisa di che cos'è questa dimensione, forse la gente questa ancora non l'ha afferrato del tutto, insomma, bisogna pensare che in Italia soltanto nel 2011 si stima, e questo lo stima appunto l'Associazione Libera, il consumo di 371 milioni di dosi, pari ad un costo di circa 425 milioni di euro. Cioè siamo di fronte a cifre che, di fronte ai quali la positività di Pinco Pallino al vertice della classifica dei corridori o degli atleti o dei nuotatori scompare. Scusa, 300... Cioè, c'è un mercato di massa a livello proprio di base che è pauroso. Tra l'altro in Italia è gestito da Massa e Camorra, come specifica benissimo appunto anche Libera. 371 milioni di dosi in un paese che ha meno di 60 milioni di abitanti? Sì, ma poi è come la lettura nei libri, no? Non è che poi sono si vedono 3 milioni di libri, ma in realtà non è che sono 60 milioni diviso 3. Esatto. Vuol dire che c'è un abuso. La cosa ancora che rende tutto molto più inquietante è che questa sostanza non ha mai ottenuto e non otterrà l'approvazione clinica, ho capito bene? Certo, fa morire. Questo marginale, questo elemento marginale. Altre sostanze producono dei danni magari che possono essere in qualche modo ammortizzate. E di fronte a tutto questo bisogna dire che sì, in questo caso la WADA diciamo è stata abile nel beccare, oppure se vogliamo dire anche fortunata, però non è che l'associazione antidoping, l'agenzia antidoping mondiale, come dire, brilli di particolare luce nella lotta al doping, perché è un passetto avanti con questa sostanza qui GV 50-15-16, un passetto indietro con la cocaina. La cocaina è vietata soltanto durante le gare, per cui se uno durante gli allenamenti si spara quello che vuole per allontanare il senso della fatica, eccetera, eccetera, lo può fare tranquillamente. Vi sembra una cosa normale? Tra l'altro questo fatto qui mette in fortissima difficoltà anche il controllo stesso. Perché come fai a stabilire che uno l'ha presa il giorno stesso della gara? Tu quando vai a fare l'analisi trovi dei metaboliti, non trovi la sostanza tal quale. Quindi non potrai come fanno? Mai, questo lo dico perché purtroppo è un dato di fatto, insomma, non potrai mai dimostrare che quello l'ha fatta in gara. Infatti negli ultimi tempi, nell'ultimo anno e mezzo, almeno a quanto mi risulti, positività da cocaina molto molto poche. O comunque sono positività contestabili volendo, perché appunto basate sull'analisi del metabolita, quando poi bisogna dimostrare che il metabolita modifichi la prestazione e tutto il resto, insomma, quindi sono queste diciamo le incongruenze del sistema antidoping che è gestito all'interno del mondo dello sport. Senti, così per capire poi l'ultimo passaggio, cioè ci sono sport che sono più interessati di altri, ho capito bene, per questo tipo di sostanza? Ma guarda, essendo questo GV 50-15-16, essendo diciamo entrando nel metabolismo muscolare, è chiaro che interviene soprattutto negli sport di resistenza, dove appunto c'è un catabolismo, cioè questo lo sanno anche i bambini, insomma, durante lo sforzo fisico i muscoli subiscono un'usura, si consumano in un certo qual modo, cioè questo è il catabolismo. Per far fronte al catabolismo ci vuole qualche cosa che anabolizzi, cioè che favorisca lo sviluppo delle cellule, il rinnovo diciamo delle cellule muscolari. Questa sostanza qui pare che lo faccia addirittura senza aiuto dell'esercizio fisico e in particolare con l'uso di un'altra sostanza vicina, di cui non faccio il nome perché non voglio fare la pubblicità a prodotti dopanti, ma addirittura con l'uso di un'altra sostanza, abbinato con l'uso di un'altra sostanza, sembra che l'effetto sia veramente moltiplicato, quindi molto molto efficace. Chiaro che nelle discipline dove si fanno 250 km in bicicletta, oppure 42 km a piedi, oppure 20 km a nuoto, e cioè dove c'è quindi un forte catabolismo, una sostanza di questo genere, diciamo il suo effetto lo fa. Però fa anche un altro effetto che non mi sembra diciamo da sottovalutare. Sì, pericoloso anche diciamo con tutti questi sport un po' estremizzati, tipo oggi c'era 100 km di Seregno, sì. Cioè tra l'altro voglio dire, no? 100 km. C'è questa corsa allucinante. Esatto, questa qua. Ecco. Voglio dire, sono le stranezze di questa società che francamente sono poco comprensibili. Grazie. Io sono sempre dell'idea che lo sport oltre un certo livello fa male alla salute, cioè anche l'amatore che si allena 3-4 volte alla settimana e che marcia a ritmi da atleta, diciamo, evoluto, perché questo succede, no? E secondo me non è che fa bene alla propria salute, fa un'usura. Se corre a piedi, le ginocchia, le anche, la schiena, se va in bicicletta, il cuore, il fegato, i polmoni, insomma, cioè, bisogna entrare nell'ordine di idee che lo sport, cioè, deve essere inteso come qualche cosa che fa bene, non che fa male, danneggia. Certo, poi soprattutto tutte le volte che intervistiamo questi atleti nessuno riesce a dirci il perché deve fare 100 km di corsa. Noi ti ringraziamo comunque, e ovviamente l'appuntamento sarà prima o poi, prima della fine di questo campionato, anche perché vorremmo sentirti al sax. Grazie, a presto. Grazie. D'accordo, preparerò un pezzo per voi. Grazie, buona serata. Dai e vai, non è solo calcio. Classifica, la Juventus è in testa con 71 punti, deve recuperare domani la partita con la Lazio. Napoli 62, Milan 58 giocheranno questa sera, la Fiorentina è a 55 punti, la Lazio e la Roma sono a 51, l'Inter a 50, l'Udinese a 48, Catania 47, Cagliari 42, Parma 39, Bologna 38, Sampdoria e Atalanta 37, Torino e Chievo 36 e poi la zona B, Siena 30, Palermo Genoa 28, Pescara 21. Pronto Alberto, pronto? Pronto? Ciao, come va Alberto? Buonasera. Come va, tutto bene? Alberto, ci senti? Non ci vuole parlare Alberto. Alberto... Cosa gli hai fatto Alberto? Ecco, hai visto. Cosa gli hai detto? È timido. Cosa gli hai detto? Alberto, cioè... è timido. Cioè, no, ma poi ha sentito le campane in sottofondo. Ha visto distintamente, gli hai fatto la linguaccia. Hai fatto la linguaccia. Figurati, forse Alberto sai che cos'è? È venuto a sapere che il Chelsea ha accorciato le distanze sul Manchester City, si è depresso dentro e ha deciso di mettere giù il telefono. 2-1 fra Chelsea e Manchester City, la semifinale di FA Cup. Io te lo chiedo così, io so che tu non puoi aver fatto questa cosa. No, non l'ho fatto. No, dai, non puoi aver fatto questa cosa. No, non l'ho fatto. Cioè, non è che hai messo la sostanza... Di che cosa? Dopante su Face. Sì. Come? Non la sostanza, hai messo già il nome della sostanza. Ho messo il comunicato allarmistico della sostanza dopante. Ecco, Alberto, sei sempre tu, pronto? Sì, prima deve essere caduta la linea. Sì, dicono tutti così, guarda. È un po' come l'Inter, questa linea, insomma. Allora... Prima sentivo uno di voi due che faceva dell'ironia sul calcio di rigore, no? Luca Gattuso. No, come no, non è vero. Certo, vabbè, diciamo che si attacca il rigore Stramaccione. Guarda, io non sono mai uno che si attacca ai rigori. Perché settimana scorsa l'ho detto a mezza Italia che non aveva compromesso la partita di rigore contro l'Atalanta. Ecco. Però oggi è imbarazzante. Mi dai un rigore che già la squadra lasciamo perdere, cosa fa? Cioè, mi dai un rigore inesistente, è colpa dell'arbitro. Ecco, ma però secondo te, cioè, allora, è sempre colpa dell'arbitro. Io mi ricordo però che ci sono stati dei periodi in cui non è sempre colpa però la linea difensiva da Moratti e da Stramaccioni dall'altra settimana, no? Moratti oggi doveva andare in conferenza stampa e farsi deferire per 6 mesi, però almeno ripeteva quello che diceva. Beh, l'ha già rischiato settimana scorsa, deferito l'ha deferito, quindi con l'Atalanta. Posso dirti una cosa, che secondo me l'Inter, non necessariamente poi quando ha vinto le triplette, anche quando poi ha fatto anche altre, cioè quando era forte, o comunque una squadra forte, in realtà, guarda il punteggio che c'è, cioè... Quante partite sono passate? 5 su 5 partite? Ne ha vinta una sola. Ne ha vinta una tre sola. 3 punti nelle ultime 5 partite. La sensazione è che si nota quando c'è una situazione un po' ibrida, cioè gli errori arbitrali, proprio quando in realtà sei molto debole e quegli errori ti permettono di vincere o di perdere. Sì, no? Infatti è così. Con Mourinho non ci avrebbero mai dato questi rigori, però eravamo 10 volte più forti. Sì, ne avevate segnati altri 3, capito? Quindi chi se ne frega, cioè quel punto. Ecco, no? Beh, insomma. magari due, sì, via. Ecco, dicevamo magari che 1-0 tirati, però insomma era un'altra squadra, c'era un altro personaggio in panchina, questo non dà carica, niente, Stramaccioni non è da Inter. Cioè, voglio dire, anche se ci fosse stato questo rigore, tu sei soddisfatto della squadra? Soddisfatto? No, per niente. E quindi, vedi, quello è l'elemento di base, cioè voglio dire. Anche se devo dire che quel palo lì, insomma. Quello di Rocchi? Di Cambiasso, di Rocchi, non so. Rocchi, perché c'erano due cappelloni in campo, non riuscivo a distinguere, ironicamente parlando. Vabbè, certo. Però voglio dire, cioè, la squadra è scarsa. E ti è andata bene che non c'era Schelotto, perché sennò come potevi distinguerli tutti? C'ha i capelli lunghi uno. No, questa è una battuta mi però veramente, cioè, siamo alla frutta, dai, una squadra veramente. Vabbè, via Stramaccioni oppure qualcos'altro? Cioè, bisogna prendere altri giocatori e tenere Stramaccioni. Non so, adesso si parla addirittura di 4-5 acquisti, ho sentito, però. Senti, ma senti, grandi nomi, a parte Sanchez. Parliamo di cose serie. Il blocco argentino, nel senso, ha dato tutto quello che c'era da dare. Ma sì, ma Zanetti non puoi chiedergli di correre 90 minuti, devo fare una raggruppata di due partite, però non è che do addosso a Zanetti a 40 anni, basta. Quindi basta. Deve andare, no? Cambiasso anche lui, vabbè, fa qualche cosa di buono. Anche se tutto sommato Zanetti poi è uno di quelli che corre di più nelle partite, avrà anche 40 anni, però ad esempio con la Juventus ha continuato a correre dall'inizio alla fine della partita. Non so se hai visto un tiro di Alvarez, mi sembrava una meta degli All Blacks, cioè voglio dire. Scusa, tra l'altro tu sei parlato della partita d'andata o di ritorno della Juventus? Era ritorno. Quindi quando ha perso. Quando ha perso qua in casa. È bene correre tanto per poi perdere. Grazie Alberto, una buona serata. Ciao. E vabbè, allora, a questo punto dobbiamo in qualche modo anche trattare cose importanti per quanto ci riguarda, se proprio vuoi. Io vado. Sì, vai. No. Io devo confessare, posso confessare questa cosa? Cioè, i miei amici mi parlano più insieme. Sì, per tutta la settimana con questa musichetta. Tu vai in giro ogni tanto, cosa stai cantando? Cosa sto cantando? Cerchi di camuffarla, fai passare, cioè, questa cosa come una versione dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Doors, degli Iron Maiden. È un vecchio pezzo inedito dei Doors. Invece sono i Pooh che stai cantando. E quindi in qualche modo lascia un po' il tempo che trova. Se potevamo chiamarla in un altro modo, però purtroppo è venuta così e guarda caso poi ci avevamo pensato di farci una canzone. Dammi solo un minuto, la rubrica di Dai e Vai, in cui voi date un minuto alla trasmissione raccontando gli eventi sportivi che state seguendo, che avete seguito, gli eventi che vi interessano, non solamente di calcio, perché Dai e Vai non è solo calcio, ma qualsiasi disciplina sportiva va bene, di qualsiasi livello. Dovete fare il servizio, cioè dovete mandarci qua un servizio direttamente, ed è registrato da voi, con la vostra voce, con le vostre parole, il modo per raccontare la vostra il vostro evento sportivo, quello al quale avete partecipato, oppure anche soltanto quello che voi avete soltanto visto, osservato dagli spalti, insomma, in qualche modo un minuto, un solo un minuto dovete mandarci in questo passaggio. Bene, allora andiamo a sentire questo minuto che ci è arrivato. Chi è? Che ti frega adesso? No, così volevo sapere. Scusa, iniziamo. Uomo o donna? Donna. Posso andare? Vai. Vado. Aspetta che non riesco a andare, vedi che mi fai emozionare. Ti sei emozionato. Quando c'è sempre questa cosa. Locomotive Montà contro Muffin, penultimi contro secondi in classifica. Grande vittoria a Padova al Palamontà del Locomotive, 3-1, questo è l'uno della squadra. Eccola qua, io sono Gioia e abbiamo disputato l'ultima partita di campionato, e il campionato WISP, lo sport per tutti. Sentiamo i commenti a caldo. È stata una partita eccezionale. Come ti chiami intanto? Alberto. Che ruolo hai nella squadra? Opposto. E allora l'ultima dichiarazione in questi ultimi 10 secondi da Padova, la nostra Rolex numero 10. Com'è andata? Bene, dispiace solo di aver sprecato tante occasioni, partite precedenti. Va bene, con questo è tutto da Padova, la linea a voi. Allora, Gioia, lo dico così, no, non così. Ha, sì. No, Gioia è lei che ha fatto questo passaggio qua. No, dicevo a te, scusa Luca, che non sono. No, è perché mi è venuto un dubbio sentendo sì, sta no, roba. No, anche a me è venuto un dubbio. So se, forse è lo stesso dubbio. Secondo che me c'è non venuto. È lo stesso dubbio. Secondo me è lo stesso dubbio, secondo ti dico. No. Guarda, cioè, voglio dire, secondo me è lo stesso dubbio in questo passaggio qua. Posso dirtelo? Sì, dimmelo. Cioè, secondo me cosa può essere? Cioè, cricket? No, la cosa... Cricket? Secondo te? Non era cricket. No, perché cricket si gioca, forte, si gioca cricket. O maschio o femmina. Certo, esatto. certo. Quindi poteva essere, non so, freccette? Eh? A freccette giocavano? Freccette sì, perché freccette si può giocare maschio e femmina sì, però insieme. Un palalino, un palazzetto, palazzetto squadra apposta che per giocare a freccette, ecco. No. Gioia, forse sarebbe utile mettere lo sport, annunciare di che lo sport di cui stiamo parlando, perché magari il minuto diventa più completo. Esatto. No, voglio dire, no, cioè, ecco. Luca, pronto? Eccomi, rieccomi. Ciao, sono pronto Luca. Per darvi il mio diminuto, no? Il minuto più importante della domenica. No, scusa, giusto? Luca, tu sei un inviato, non è vero? Cioè, non è che cioè, devi fare il minuto. No, avete appena fatto sentire dei contributi che non nomino neanche lo sport. Sono qui pronto io. Sì. Andiamo, via. Ecco, no, no, chiediamo. Scusa, Luca, non è possibile. Questo, cioè, no, scusa, dai, adesso, Luca. Cos'è sta roba? Spartacus, la rivolta degli schiavi. Questo arriva, vuole fare lui le cose. Mi avete chiamato, mi avete Luca, facciamo il collegamento alle 18.40 così ci dai il tuo minuto, sono sì, qui, pronto? No, sì, no, ma devi dare, facciamo un collegamento di un minuto, ma non è che quello dai, è dammi dai, solo un minuto. Mandate la sigla che io parto. No, aspetta una cosa. L'ammutinamento del Bounty, sì, è uguale, a un certo punto non ti diamo neanche le frustate, hai capito? In questo caso, Luca, aspetta adesso perché adesso abbiamo anche delle altre cose importanti da dire. Mandala, sono pronto, sì, sono pronto. Quando la sento partire io parto. Quando la senti partire, non è adesso che devi partire, vabbè dai, nel senso. Dai, mandala. Va bene, dai, scusa, vado, ciao. Vai. Dai e vai. Dai e vai. Non è solo calcio. Ripensa adesso alle sue pose plastiche, l'idolo della folla che salta e mostra svastiche. Guardalo adesso che si è rotto il guscio, il tuo pulcino muscoloso col pisello moscio. Rotola sai, rotola la palla, il modulo a tre punte, la fase difensiva. Ripartenze, crollano le apparenze, andiamo di dal succo, fuori il trucco. Qualcuno sta barando, è il grande vecchio che soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla per me, bellina balla, che balla dopo balla. Balla, balla, si ballerà questa sera. Era San Siro, ovviamente la partita è Milan-Napoli, giusto? Sì, Milan-Napoli, alle 20.45 il posticipo, poi domani sera ci sarà Lazio-Juventus che è il posticipo del allora, posticipo. Nicola Loreto fa parte del Napoli Club, fino a qua niente di particolare perché noi seguiamo le trasferte dei tifosi. Esatto. Napoli Club Trento. Trento. Ah, non capodichino. No, niente. Nicola, Trento. Pronto Nicola? Io all'inizio dovevo uscire a destra, non fare il culo, giusto? Aspetta, fa sentire. Aspetta. Che è successo? Non lo so, stava discutendo. La porta. Nicola, non ci sente. Pronto? Ciao Nicola, eccoti qua. Sì, ce l'abbiamo fatta. Eccoci. Come stai? Sì. Tutto bene? Siete arrivati? Bene, siamo arrivati ora a Milano. Ora siete arrivati, è proprio adesso in questo momento, vabbè, insomma. Come? Ma non è molto distante, insomma, da Trento voi venite, giusto? Quanti siete? No, però ci siamo fermati a prendere un po' di gente che veniva da Vicenza e da Modena. Ho capito, quindi li raccattate. Quanti siete? Due, un pullman da 55 e uno da 20. Però. Ma fammi capire, ma voi praticamente quando dovete andare a vedere il Napoli, dove lo prendete soltanto al nord o andate giù anche a Napoli? Qualche volta scendiamo anche a Napoli, per esempio siamo scesi con la Juve, però ci viene più facile andare in trasferta che in casa praticamente. Insomma, voi coprite il nord, insomma. Esatto, nord noi copriamo il nord. E anche un po' di centro, magari. Come? E anche un po' di centro, insomma. Sì. Ecco, ma dove ti trovi in questo momento, scusa? Noi siamo sul pullman che stiamo raggiungendo il parcheggio del settore. ho capito. Quindi, senti, Nicola, ma cos'è tutto sto casino? Come? Cos'è tutto sto casino, sto caos che c'è dietro di te? Perché si urla così tanto? No, non ti sento perché qui... Fanno i cori. Vabbè, certo, per forza, siete un pullman che fa, che va a vedere la partita. Insomma, dacci almeno il risultato stasera. Dai, allora diciamo 1-1. 1-1, va bene, dai. Grazie Nicola, ci risentiremo prima o poi. Ciao, ciao. Va bene, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Cioè, più che altro lui deve sentire noi, perché noi non sentivamo. È lui che non sentiva noi. Tra l'altro io vorrei sentirlo ore. Esatto. In questo caso, però insomma, questo ci ha lasciato un po' così. No, non è possibile. Luca, Luca. Pronto? Rieccomi, rieccomi, no, perché Luca. Mi avete abbandonato solo al distributore. No, Luca, adesso basta, non è che possiamo... Cioè... Dai, fatemi sentire, stiamo quasi chiudendo, fatemi sentire questa sigla così io... No, Luca, guarda, il minuto era bellissimo, è venuto benissimo, anzi abbiamo ricevuto degli sms degli ascoltatori, è piaciuto tantissimo, ha capito com'è, perfetto, grazie Luca. Però se lo volete lo posso ripetere, sono qui apposta. Aspetta un attimo, dobbiamo invece salutare i tecnici che oggi ci hanno guidato e ci hanno confortato, non come i nostri redattori, in questo caso Pietro Lacorta e Paolo Corleone, che ci hanno seguito fin dall'inizio. Ovviamente Giorgio De Luca ha assistito al programma. Qui c'è scritto, tra le altre cose, in redazione Luca Cancellara, che noi non abbiamo visto in redazione, però abbiamo sentito da Seregno oggi, più e più volte in questo passaggio. Direi poco in redazione. Tra l'altro ho un minuto pronto, se volete, sono a 100 km di Seregno, questa corsa epica, questi atleti d'acciaio. Sì, vabbè, dai, facci sentire l'attacco, dai. Allora, un attimo perché sono in coda, che sto... Come sei in coda? Ma adesso che ti davamo il minuto, scusa, non vuoi parlare del minuto, scusa. Sì, ma sto superando sulla destra una Toyota. Come sulla destra? Così, ecco. Non si può! Ma che modo sono? Dai, scusa. Tenetelo per voi. Quando volete io posso partire. Ma è rosso il semaforo. Sì. Allora andiamo col tuo minuto da Seregno, cioè 100 km di Seregno. Pronti? È giusto? Oggi domenica... Aspetta, che la sigla. Oggi domenica 14 aprile 2013, sotto il sole cocente di Seregno, in provincia di Monza Brianza, è andata in scena la 100 km omonima di corsa. Tra vesciche, crampi, attenzione che sto facendo un sorpasso azzardato, risentimenti muscolari e disidratazioni, gli eroi del terzo millennio hanno percorso chilometri su chilometri dalle pie Brianzole. Le geste epiche di questi atleti d'acciaio sono rimbombate in tutto il nord Italia. Voi le avete sentite? Il podio della 100 km di Seregno. Occhio all'autovelox. Al terzo posto, in 7 ore e 59 minuti, Marco Lombardi. Al secondo posto, dopo 7 ore e 23 minuti di corsa, Marco Bonfiglio. Attenzione, c'è la polizia che potrebbe vedermi col telefono. E non sarebbe male. 7 ore e 16 minuti, Francesco Minella da Bari. Dal semaforo dietro via Monterosa 91, da Luca Cancellara, è tutto lì allo studio. Scusa, Luca Cancellara, ma sei qui sotto? Sto quasi arrivando, ma il traffico... Sei quasi arrivato, sei qui sotto alla sede. Probabilmente mi fremerà anche la polizia che mi vede parlare al telefono. Esatto, sei veramente una roba veramente brutta, Luca Cancellara. È stato un piacere darvi il mio minuto quest'oggi. Grazie, è stato bello. Mi è sfuggito, non l'ho fatto apposta, ero distratto da quello che stava succedendo. Ovviamente lunedì Juve, ci dicono. Lo sguardo al futuro, che cosa vuole realmente Conte per cosa essere consecutivo, Massimo Mauro? Ilaria, facciamo un'ipotesi, se il presidente chiedesse la semifinale o la finale di Champions, allora Conte dovrebbe chiedere un grande giocatore in difesa, uno a centrocampo e uno tre innesti. Se invece chiedesse lo stesso stesso risultato in Champions e la competitività in campionato, secondo me la Juve va bene così com'è. Quindi sì, vuol dire andare buonanotte in Champions, qualificarsi. Tu sei sempre critico. Ma no, ma figurati. No, tu sei sempre uno che accusa ma scusa, Mauro. No, ma adesso, guarda che ci patisce. Ma lui. No, ma no, ci sta male. Allora, non è che adesso poi dopo l'Inter non metterà dentro qualche giocatore, ne comprerà una dozzina almeno, no? Cioè, sì, poi di cui sei si infortuneranno nel precampionato. E quindi potranno giocare con i sei nuovi, esatto. Però voglio dire, però lì il Milan adesso cosa fa? Sta fermo? Cioè, sta lì a guardare che cosa? Scusa, no, no, no, non è possibile. Cioè, assolutamente, quindi ovviamente si rafforzeranno e quindi anche la Juve dovrà fare qualche cosa in particolare. È l'abitudine ad affrontare avversari torno. Di quel livello, che ti affrontano nel modo con cui tu affronti le altre squadre in Italia. Vabbè, questo lo sapevamo, niente di particolare. Questa sera chi è che abbiamo tra le altre cose? Luca Cancellara abbiamo. No, no, basta adesso, dai. Sì, Luca Cancellara da San Siro, ma soprattutto, no, voglio dire, questa sera le partite, la partita. Esatto, abbiamo Milan-Napoli che inizia alle 20.45, dai e vai, torna su Radio 24 dalle 22 alle 23 come tutte le domeniche. Senti, tu ti ricordi la classifica bene? Cioè... Ma di che cosa? No, perché ho visto che hai messo già via tutti i fogli. No, me lo ricordo allora, benissimo. Me lo ricordo benissimo. Dai, la Juventus è in testa alla classifica con 71 punti, poi c'è il Napoli 62, 58. Ci vediamo stasera, Milan. Grazie. Ciao.